fare un raffino. E una caldaia, aspetta. Già l'ho sentito a cassetta. No, no, va bene. Non pensavo che fosse la stessa cosa, se non l'avessi detto. Anzi, stava pompando forse di più. Sì, ma ce l'ho a metà, non è al massimo. Me l'ha fatto regalare Marco così. Strano, perché non me lo ricordo così forte come microfono. Ma è buono, non so. Questo non gli ho fatto niente, è originale. Se non avevo fatto Carlo. Carlo, l'animatore, ce l'aveva su Nick come lui. Io l'ho cambiato solo la connessione e basta. L'attacco è tanto uguale. No, funzionava bene. Funzionano bene con queste radio. Non ti ricordi a Luca, non c'aveva l'MB più 5, l'MB più 4 con 140. Io. Sì, io me lo ricordo. Beh, funzionano bene. Funzionano bene, ma no, questo è il più 7. Per due, mi ascolti? Perché sei così bassa di modulazione? La radio è bassa, non è forte come sono abituato a sentirti. Prima dici che radio stai usando? Che radio stai usando? Ma non mi senti? Adesso mi senti, guarda, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ma questo qui è quello che ti hanno detto ultimamente? L'ultimo che ti hanno venduto è... Boh, si ostina, c'è gli apparecchi voi si ostina a usare quelli che non funzionano. Io quello che ho dato a Giulio, l'HB23 è molto più forte di quello. Quando usa con Saletta, che l'ho dato anche Saletta, è fortissimo. Questa modulazione non ne ha. Ah, non c'è niente dentro, lo so, lui. È già troppo, ci funziona. Aspetta che come un alimentatore, che questo c'è, sta al ventolo, mi sta rompendo le palle. Aspetta che attacco il PS50 al 140. Vabbè, il capello venuto è sì, 80. E allora usalo se ce l'hai. Oh, almeno più silenzioso. Non è che metto le cuffie? Io, già sono qua. Ma non hai visto il telegiornale, quello che ha inventato Facebook, a 30 anni, non so quanti milioni di euro c'ha. Ha 30 anni, eh? Già l'ha sgamata bene la cosa. Pompa bomba. Ah, io capito, faccio sentire questo alla 68. Se lo sento basso anche una cuffia, te ne immagini? Pure in cuffia lo sento basso. È bassa di radio, il segnale già è su, ma la radio è bassa. E lì è roba microfonica oppure ci vuole la lici aperta. A me sembra strano perché la HB23 già era di per sé forte da quando si va dalla fabbrica. Sto abbassando la potenza. Già va bene. Gappa. Chi è questo? È un pelino, ma non è che sia così forte la radio. Se non messo le cuffie già anche il PS7 è un po' buon pagher di più dell'MC60 se ti fia. Una volta spendiamo una barca di quattrini con 50 euro, c'è un microfono adeguato. E non è manco brutto esteticamente. Oh, il più 7 è bellissimo. È un po' più bellino del più 5, c'ha manopola in più. Però è bello, già va bene. E beh, il microfono già ne ho. Non voglio fare connessioni, questo era già pronto praticamente, capito? Cappa, chi è che stava parlando? Avanti, avete parlato in due. Benché io preferisca sempre l'MC60 e buonasera a tutti. Vabbè, se io attacco l'MC60 non te ne accorgi. E io o sì o no. Se vuoi provare, aspetta che fai un passaggio e mi alzo il volume un po', che non sento nulla. Non te lo dico io quando sto usando l'MC60, capito? Io non te lo dico assolutamente. Sei tu che te ne devi accorgere, come faccio io quando voi cambiate il microfono. Quindi sei tu che te ne devi accorgere. Adesso io sto usando l'MB+7, però io mentre sto parlando te lo cambio o non te lo dico? Va bene, tu quando vuoi lo cambi, quando vuoi lo cambi. Bene, vediamo se stai attento. Ah boh, dici che altro c'è qua? Nessun altro è entrato. Gianni lo più rotto è Capri 2. Oh, ciao Capri 2, vediamo come arrivo lì con questo. Io bastardo sono. Attento Capri 2. Ehi, ciao Gianni, sono Marco. Mi ascolti con 4 watt? Come mi ascolti con 4 watt? E c'è anche Gianni, sono rimasto già al bardo. Rincoglionendo ti stai. Ehi, ma sto uscendo. Ehi, ti ho detto che c'è Gianni doppio room, è Gianni Capri 2. Ehi, e io sto chiedendo al Capri 2 come arrivo e lui non risponde. Capri 2! Giornata strana. Hai detto più rotto. Luca! Come va qui? Ciao Claudio. Sono qua. Ho riparato, cioè, oddio, io non ho riparato niente. Domani devo dare un'altra occhiata. Ciao Lucrezia. Ciao Luca, buonasera. Ciao Gianni Rannini, e me è Claudio. Allora, a posto. Tutto a posto, sono su conta da mezzogiorno in giro, poi c'è a pranzo cosa di guadagna ricca, sono rientrato poco fa alle 7:30, ma sono un po' stanchino. Così è, e allora, già va bene, avanti o più lungo, c'è Marco Condo, cazzo, boh, mi coglio l'indice. Ah, sta a flettere di meno Luca, non si stacchi. Ah? A flettere di meno. No, non è quello già, vai qua, vai là, è qua, è là, no, hai visto, là, ui. No, c'è un po' di mal di testa pure. Vabbè, no, sono stanco. Marco Condor, cosa ti ha preso oggi, dimmi. No, a me, io ho sentito, credo di aver sentito Capri 2, ma ha anche risposto. Allora, caro, c'è Gianino Pirru, Capri 2 e io. Tu hai detto, ciao, Capri 2, boh. No, io volevo chiamarlo, lo volevo chiamare per sentire com'ero con 4 watt, ma non ha detto. Non ci arriva, bella, non fa nulla. Ma oggi si è sentita bene mamma, molto bene, siamo andati in giro, abbiamo fatto spese. Meglio così. Caspita, almeno forse è definitiva la cosa. Io te lo auguro. Adesso Marco non è attento. Vai ancora, rimani a panicaggio, tu. E cosa? Forse è ancora... mangiare molto pane e formaggio. Pane e volpe. C'è vino. Pane e volpe deve mangiare. Conosci il microfono, ma lo già riconosci tu. Hai capito che io parlo con il microfono normale, sembra l'MC60, con il lupescio. Adesso è l'MC60, dallo stacco me ne sono accorto. Perché te l'ho schiacciato adesso il lock. Ci avevo 5 minuti con l'MC60, me ne accorgo, lo so che accorgi. Se mi do il PTT non te ne accorgi tu, perché io mi metto le cuffie e le modulazioni sono identiche, non cambia assolutamente niente. Ah, avevi l'MC60, no, in effetti non cambiava qua, non me ne sono accorto. Se ne accorto Gianni dal lock, perché il lock fa un altro rumore, fa tac tac. Invece si usava, se stavo usando il PTT non te ne accorgeva neanche Gianni. E da 5 minuti che ho cambiato, adesso sono con l'MC60, poco fa ero con l'MB+7. Ma le modulazioni sono uguali, precise identiche, non cambia niente. Beh, buono allora. Quanto è che costa quello ZG? nel 2017 mi pare costi 65 euro, una cosa del genere. Il più 5 costa 50 qualcosa, il più 4 costa 49 euro, 45 euro. Ecco, ecco. Beh, quindi volendo si può adattare l'MB più 5 anche, trovi il tono giusto e va bene. Il tono devi usare, già ne fai dei toni. Cosa ne fai tu? Senza tono devi usare. No, quello mio, l'MB più 7 c'ha il connettore che è collegato al 780, lo uso di scorta, cioè ce l'avevo sul 780, adesso ci ho rimesso l'MC60 sul 780 della Kim, il base, il VU, perché ho comprato altri due MC60 e quindi li ho collegati. E quello lì lo uso di scorta, lo passo da una radio all'altra, va bene in tutte le radio, capito? Da tutte le parti va bene. Ecco, ecco. E per la batteria però, cioè per l'alimentazione stai andando a batteria? Sì, no, non gliel'ho fatta là. Non conviene perché è pericoloso sempre. I chemodi sono già testati, c'è un circuito di alimentazione all'interno, quello bisogna fare un sacco di casino, gli ho lasciato la batteria. Non fa niente, già funziona lo stesso, alla grande. Bene, allora va bene, va bene, va bene. Luca! Ehi, amico, sono... vai qua, vai là. Ehi, avevo sentito che... ma la concessione la paghi a febbraio. Sì, perché? Ehi, una volta dicevano che andava pagata improrogabilmente entro il 31 gennaio, se no, Allora, a me nel 94 è successo così, adesso sarà cambiato, immagino. Nel 94 abbiamo ritardato di 10 giorni, ci arriva la lettera della comandante, la concessione è decaduta, spero che adesso siano più elastici. Accettano per loro, non è che se non pagano, scusa, puoi fare quello di 10 euro. Intanto i miserabili nell'anno di grazia 94 sì, mi hanno fatto decadere la concessione, però i 15 euro se li sono tenuti, non sono tornati indietro. Io ne gusti. Vabbè, no, ma adesso non credo siano così fiscali, tanto non ti mandano nemmeno niente, non ti timbrano concessione, niente, è un foglio di carta, una fotocopia addirittura. Ah, già di una frutta, concessione, non la pagare la concessione, dove è proprio, poi niente chi vede. Lo so, però quando sono col baracchino in macchina, in caso di controlli voglio stare tranquillo, se no trovi il solito appuntato cacacce che ti fa storie. Io faccio una cagata, io ci cacca bene, ma non è, io non ne parlo più, assolutamente, baracchini non ne ho, c'ho la patente del centro rimattore, il mio spazio è da 0 kHz a 70 MHz, perciò non ho niente da che spartire con loro, basta quello che faccio, perciò Antonio 27 non ne ho, perciò faccio quello che voglio, non sta sempre, non vedo gomito di dire, ho vergine senato. Quando lo vento entra lo stesso, manco per la borsa e la balla me ne sbatte. E me lo più rotto. Io invece ho pagato il 2 gennaio come tutti gli anni. Il secondo giorno di gennaio se ne va a pago. E io vabbè, claro. Non sono 112 euro che ti rovinano, almeno sei tranquillo. Non sono tranquillo, e cosa è che mi ruina niente. La mia licenza ministeriale è da 0 a 70 MHz, quindi ci sono anche gli 11 metri, perciò a cosa serve? Non serve assolutamente a niente. Io baracchini non ne ho, e quindi cosa devo stare lì a tirare a moto? C'è più qua baracchini, solo radio HF. E quindi Marco, adesso cosa sto usando? Adesso sto usando la coppia del 3009. Certo, secondo me tutti italiani. Gianni, che domanda voglio fatto a Marco? Che microfono stavi usando? No, io ho sentito, che cosa stai usando? Cosa sto usando? Questo ti sta rincoglionendo tu. Qua il volume è basso, non posso disturbare in casa. Spiegaci KP2, fatelo girare, dai. Girati KP2, mettiti a testa in alto. Che ti ha fatto lo girare? KP2, ci si. Tu fatelo girare già. Ehi, per vedere la pantà. Come la trottola, fatelo girare. Sì, fate girare la ruota, volevo dire, ho sbagliato. Fate girare, volevo dire. Invece ho detto fatelo girare. Sì, nelle ruote di una volta, prima di parlare, ne passava di tempo. C'erano 20 persone così, anche di più. Ma voglio aspettare. E tu aspettavi, io passavo sopra. A volte si andava anche con la carrozza, ci sono le macchine, Marco. I tempi sono cambiati. Lui aspettava già, io passavo sopra. Se sarei da vegliare una sassa era 9, che vuol dire le 9.22, ciucciù. Tu immaginati che ce n'erano 4 qua attaccati. Tutti e 4 sono spariti. Oh, CB, e chi era? Ma gente che non entra più adesso. Non ci sono ancora le antenne, ma non ci sono più. Daniela, Accogliattolo, cosa, come si chiama? Come se ne andavano sullo... mi chiedo sempre, io sto entrando, tra 5 minuti sono in radio, ma andavo sul 20, con Tino. Tino, c'era Gabriel Celentano, una bella effetto. Tutti quelli, insomma, ce ne andavano sul 20. Allora rimanevano sul 14. Oi, oi, oi. Con i Varacchini, io già col 430 della Kenwood e tele 922 agganciato. Sant'Antonio mio, già li sentivo domani, ma a loro. Giù, giù. Fatima entro zero, no? Non solo Sassari, anche dalle altre parti. 1100, 1000, 990, 800 watt puliti in antenna. Appena comprata, appena uscita, era la Mantova 1. Mamma mia, perché vittoria. Tu immagini che io da qua, mi ricordo sempre, se in ascolto può anche entrare, che Mario ogni tanto ascolta viaggiando. Mario Babbo Natale, quando era con Aroni, erano a Cheremule, uno dietro l'altro col camion, io ero sul canale 5 e stavo parlando con Michele, lui era a Cheremule, proprio nella strada, nella 131, tra Cheremule e Tiesi, no, tra Cheremule e Mores, uno dietro l'altro col suo collega, con Costantino, mi ha telefonato e mi ha detto, Tinnandi al canale 5 che non intendo a Costantino, verrebbe a 50 metri. E vabbè, ma il TL922 è da criminale, io... Che sono criminale? Anche... Non ce l'ho sempre, già si usa, già si usa. Quando c'è bisogno si usa, va bene, HF. 27 ho sempre il KLM-707, 5 valvole, della Globetrotter, che Luca conosce molto bene. Quello ne tira 700, 800 in AM, 950, anche 1000 in banda laterale, quindi non è buccia di gioca, in AM 27, proprio per la 27. Immaginate che io lo uso per i 10 metri, per il 28, nella 750, 800 in banda laterale, che non è che si abbia un accoppiamento perfetto, perfetto, perché vorrebbe accoppiato un po' meglio il pi greco, ma... Non è quello il problema, capito? Però li dà. Immagino già di cosa da Dina M si attacco l'antenna. Belle bestie. Poi 6 watt sono effettivi, perché magari alcuni lineari per la 27 ti dicono 700 watt e poi ne dà 400 seppure. No, questo già li dà, non ti preoccupare. Già arriva che è un professionale, questo lavora in 1000 A, ha due strumenti grossi, dove tira l'uscita e la tensione la valvola in 1000 A, quindi 400 mA sono 800 watt, no? L'elettronica non è un'opinione, sono quelli, infatti sta sempre in sopra i 300, 350, quindi sono intorno ai 650-700 watt in banda laterale, già così, già così. Il 922 è così lo stesso, lavora in 1000 ampere. Comunque io adesso sto usando, è già da 10 minuti che sto usando sempre l'MB più 7, non mi hai detto niente, avanti doppio rutta. Perché in effetti la modulazione è precisa, dai. Cosa devo ammettere, è così. Si può riconoscere, diciamo, dallo stacco, ma per il resto va benissimo. K, Capri 2. Capri 2 è andato in garage a prendere un'altra radio. Oggi è partito tutto. Il giorno lì che è partito. Non sente più. Capri. Io so che aveva un problema al PL, ogni tanto gli si staccava il centrale, credo, figurati. E allora non era saldato, come fa a staccarsi il centrale? Non lo so, me l'ha detto, facendo falso contatto. Passava il K da, che ne so, da 7 a Santiago 2, 1. Oh yeah. Ha bruciato due lineari, con le stazionali ancora non ci siamo. Si ostina a usare apparecchi che non vanno bene quando c'è apparecchi in casa che vanno benissimo. Boh, io non lo capisco. Ma infatti te l'ho detto già, te l'ho detto ieri, cerca di fare quel business, tanto non se ne va di nulla, devi salvare. Business deprimati. Ma quel 680 è valido? Meglio di quello che hai tu. Oh, e quanto lo dà? 50 euro col microfono. Sono due radio uguali, è inutile che sono uguali, precisi, se voi mettete 180 e 140 a fianco, uno c'è scritto 140, l'altro c'è scritto 180. 140 di 70 come frontalino, in più del 70 c'è il preamplificatore d'antenna e basta, che serve esclusivamente per usarlo in simmetri per amplificare un po' il segnale, perché in simmetri la banda è molto molto stretta. Capito? E la scheda dei simmetrici all'interno hanno la stessa componentistica, sono precisi, identici, non cambia assolutamente niente. Io avrei voluto provare a ricevere dalla macchina i posti buoni con l'antenna multibanda, però col portatile è un casino, perché senti le radio AM, senti, casino, di mattina ancora riesci a sentire qualcosa attenuando un po'. Questo sarebbe bello usarlo per ascoltare in macchina con quell'antenna lì, però non mi fido io. Tipo 640 ci fai 10. No, solo ascoltare, già ascoltare i 40, i 20, gli 80, capito? Sei di quelle antenne prese e calcolate, tipo la Outback 1899 e tante altre. Se no ti compro una manto, ma come ha fatto la persona che ho visto io, se c'è la manto va attaccata alla macchina. Sì, ho Vittorio, quel palo telescopico di 30 metri o quant'è? E vabbè, ma lo mette quando è fermo. Ovviamente, sì, quando sì. Abbiamo avuto un'idea, che a me ne dico che c'è un palo alto più del palo della luce in alto qua. Io lo so, abbiamo fatto alcune spedizioni con quell'antenna, funziona veramente molto molto bene. Va bene, va bene. E' bello Gabriello. Questa è seconda in classe, un altro messaggio. Mi pare che sia un'antenna tedesca quella. Mi ce l'ha fatta una canna da pesca, oggi antenna tedesca. Una canna da pesca, sono stili di canna da pesca quello, oggi la tedesca. Ah, comunque l'ha detto, mi pare che quel palo telescopico, perché alla fine non è una canna da pesca, è 20 metri almeno, troppo lungo, mi pare che abbia detto che l'ha preso dalla Germania, sì. E poi intorno ci metti un po' a spirare il cavo, il conduttore, e è fatta l'antenna. Ah, quella telescopica, ma neanche un'altra. Sì, quelli lì si comprano, sono antenne da campo, quelli si comprano, capito? Non ce n'è problema. Funzionano bene. domande. Magari è. Allora, come va questo più 7? D'accordo, bene. Aspetta che sto facendo una telefonata. Non fai questa telefonata, va bene. Attento, Pantana. Pantana. Gianni. Peppino di Capri, CC. Boh, è successo qualcosa all'antenna? Boh. Ecco, ce ne so io. C'è di sempre Murigende. Non lo so, non senti, io lo sentivo basso di radio, però come segnale c'era il suo. Ma sai cos'è che non mi piace quella radio? Che si aumenta la radio da sola e ti fa distorcere il tuo. Che cosa, la mia? No, quella che stai dicendo tu, così ho tanto. Ah, è lui che... Io ho detto un sacco di volte di portarmelo qua. Io glielo faccio sentire io come esce. Quella è la mia, già. Quella l'ho comprata nuova, la fiera, la prima fiera che sono andato in Genova io. L'ho comprata nuova perché ci avevano assegnato i 6 metri. Io non avevo banda dei 6 metri, capito? Avevo i 9,40 e non avevo i 50 mega. Allora per iniziare ho detto, ah, io mi prendo questa. L'ho pagata sugli 800 euro, mi fa una cosa del genere. Usata, nuova, proprio nuovissima, era di un radiomatore di Genova. Mi sono comprato il 920 che era appena uscito dalla Iaesio, che poi me l'ho preso anch'io, infatti l'ho venduto quello per comprarmi il 920 che c'era dai 50 mega a 100 watt, quello 50 mega di lavoro a 35 watt. Quindi ho detto, ma sì, inizialmente uso questa, giusto per fare un paio di chiacchiere in città, eccetera. E l'avevo comprata nuova, tutto nuovo il pack. E me l'avevo messa anche in M. In M avevo fatto due regolazioni, fortissime, andava veramente molto molto bene. E poi l'ho volata a Franco. Franco l'ha data a un'altra persona e questa persona l'ha presa mica più lunga. Però Franco non lo usava mai, pochissimo. Ma Franco non c'ha più nulla, Delta 1 stai dicendo? Sì, non c'ha più niente, nulla, zero. Ha venuto tutto. Tu non abita neanche più lì? No, no. Ha cambiato totalmente vita. Sì. Non c'è più. Ci siamo visti da Fusaro due o tre settimane fa. Sono andato a prendere il cavo, ci siamo visti lì. Ma è sempre a Sassari, sì? Sì, sempre a Sassari. Casa del padre, fa lavori sempre a conto suo, sia di computer, montaggi di antenne, riparazioni, come sempre. Ma vale, poi ho capito la situazione. Vabbè, a volte si cambia. Beh, ok. Stavo dicendo, quindi non c'è più niente, pensavo che qualcosa ci fosse rimasto, ma è a riserva, più visto l'hai Antonio. No, l'ho telefonato un giorno, ma deve aver cambiato numero, perché c'è un numero vecchio. Ma Franco c'era una bella stazione, ancora da mia, l'ho trovato il 711, l'811 della Kenwood di Gemellini, VHF, gli avevo dato il 920, quando poi ho preso il 950, e Energy Radio Radio. Quando ha avuto il problema ci è venuto tutto in continente, ha fatto un pacco, ha scritto tutto in continente, tutto, infatti mi sono incazzato perché gli ho detto se vendi la radio avvisami, perché se mi trovi in un momento che posso spendere me le riprendo, anche perché 920 è nuovo, capito? E 711 811 sono più o meno come il 140, così simili al 140, solo che sono uno in VHF e uno in UHF, sono i due gemellini che aveva fatto la Kenwood V e U, stazione base, precisione CC140, e sono ancora valutati abbastanza bene, intorno ai 350-400 euro l'uno, però non è che si trovano molto facilmente, capito, perché vanno molto bene. Kappa, vabbè, andava bene. capri 2, sì sì. Il fulmine è caduto. Ma boh, se è successa qualche cosa in radio, sicuramente qualche filo, qualche cosa che si sta accanto. Strano, io non c'ho il numero di telefono, se no l'avrei chiamato. Boh, noi sta mangiando, non so. No, adesso ti avvisa. Lucrezia, finito hai. Sto telefonando all'amoroso. Arriva Luca l'amoroso. Che remore. E tu cosa stai usando, Marco? Cosa stai usando tu? Appigliare il culo. Oggi non connette, siete su di questa frequenza. Cazzo, non vale, cosa vuoi? Un buttone da leggi. Io sono a volume basso, non posso disturbare qua. Cazzo, mettiti le cuffie. Non mi ci trovo, mi danno fastidio. Già, ma cosa dobbiamo qua? Secondo me per quest'anno. Millo. Mia Capri, mi Capri. Ma dove si andava a finire? Ma che radio è? Ma non esce di radio, è basso. Oh, ma cosa c'ha di differenza? Cosa c'ha di differenza? Però abbinare qualche microfono, perché quando parli tu devo sollevare il volume, quando parla Gianni lo devo abbassare. Anche il ricezione è basso. E non attaccane un'altra già, cazzo, mettila da parte quella. Vorrà andare in pensione, sarebbe anche ora, no? Guarda, è mezza l'imbarazzo per se ne trovi qualcuno che va. Metti l'apparato buono, metti il Kenwood. Cazzo via, domenica mattina vengo a... in paese e mi porto via il C80, Gianni, me lo porto via, guarda. Vengo domenica mattina e me lo porto via, guarda. Intanto per tenerlo lì e non usarlo, vengo e me lo porto via. Va bene, domenica mattina vengo e me lo prendo, facciamo così. Insomma, bella per conto mio, io sto ricevendo da 140, ma faccio fatica, boh. Segnale è un ottimo segnale, se 9 più 20 qua, ma siamo uno di fronte all'altro, ma radio non ne hai già. Fa fatica anche Gianni Doppio Room a ascoltarti. Ma sempre che lo sta prendendo, perché stai surmando nello stereo il vicino. E mi turba. Vicino nello stereo. E che ce n'ha tutti. L'occasione è quella, No, l'occasione è quella. Non l'ho preso pure da Gianni. Ma io ci sono anche contanti, ma non so se scutalarmi, gli dico la verità. Ricordo anche io. Io mi sto facendo per andare in fiera, ma... dico, rigirami, mi investo di nuovo, se mi dai in culo. Non va la fiera. E poi magari alla fiera trovi apparati che ti imporranno di più. E se poi dopo il fattino vicio mi dico in fiera già, tu non sei mai andato. Io sono 15.000 metri di capannone a tre piani, mai l'ha visto il mercatino in Piazza del Sì. Tu immaginati tutte quelle bancarelle piene di radio, ma 15.000 metri quadri, ma... Lo so come sono le fiere. Non ho mai visto quella di Radio Amaturi, ma ne ho visto tante altre. Lo so, deve essere una cosa bella, ma poi poi mi viene l'Alzheimer. Già, la bava te ne scende, credimi. Te lo dico per esperienza, io la prima volta sono stato in fiera, ero doppio zero. Mi avevo portato, ti giuro, ma pagavamo in lire, capito? Me lo pagavamo in lire e di Napoli usciavano un bel perché si lavorava, eravamo più ben pagati, cioè un bel più di soldi di adesso, ora non abbiamo cucito rispetto a prima. Questo mi avevo portato 1,5 milioni, ok? Quando sono entrato in questa fiera, in 5 minuti mi ho speso 1,5 milioni, subito, immediatamente. Ma avevo comprato il 920, che costava 1,200,000 lire. Ma che cazzo tu dici? Eravamo già in euro. Quello 200, eravamo in euro, 2005, eravamo già in euro. 1200 euro costava, nuovo, e via. Cazzo, avevo 300 euro, tutto 300 euro già avevo. Siccome c'avevo già il Kingwood, mi ho preso l'MC60, poi la colonnina esterna del 940, insomma è Parigi rovinato. Partiamo, eravamo tutti in Grecia, io, poi lo sai, no? Io, Walter, Marco, Lino Gio, con la moglie, poi chi c'era? Cioè, eravamo una ventina, Andrea, Gianni Exeldorado, eravamo tutti neopatentati. Insomma, passiamo un'altra di partenza. Era appena uscito il PS2000, la prima serie, il Sugar, rimbatte il Walter, me lo compro anch'io, me lo compro, cazzo io, fino a te non c'è più su, come faccio con me, non compro più niente, ma che poi miele poi ci comprerà, mi do con busciacca, ragazzo, un blocchetto, assegni, PS2000, avevo comprato il PS2000, il 706, avevo comprato, guarda, non ti dico il casino che ho combinato, non ti dico, sono stato 2 mesi piangendo, ma giù peso tutto, mi pare che 4.000 euro. La convenienza allora, ui. No. Ma c'è anche apparecchiatura civile o solo radioamatoriale? No, c'è qualche tende, c'è qualcosa su di baracchini, ma è molto difficile. Siamo tutti dei bellissimi usati, veramente garantiti da poter comprare a occhi chiusi. E poi c'è il nuovo, la radio di ultima generazione. Ma Sant'Antonio Mille. Ma chi è? Ma ti dico cosa tutto abbiamo comprato. E poi a passare al check-in. Al check-in per poco ci lasciano a piedi. Quando abbiamo dichiarato che avevamo tutte le radio, ma in aereo non si possono portare le radio, perché posso. Se sono spente, se sono radio nuove comprate adesso. No. Quando siamo andati alla fiera, di Genova con tutta la greffa, il mio patentato, non ci volevano passare in aereo perché avevamo queste radio, un casino. Quando rientra Marco, fatto raccontare, se entra Marco poi in 27, vede Andrea Oceano di Cantoreria, si drudiava un flaggo, mamma mia! E come l'avete fatto passare? Avete dovuto spedire? No, fortunatamente Marco lì, siccome lui viaggia tantissimo, non avevamo la fiera di Genova, avevamo la fiera di Novegro, Milano, alla fiera di Milano. E quindi conosceva lì al check-in, aveva degli amici, ci hanno chiamato 4 volte, poi io parto, mi sono lasciato i documenti lì al check-in, quindi l'aereo sempre esistendo a noi, sono tornato indietro con Andrea a prendere i documenti, qua abbiamo fatto un casino Gesù Cristo. Ecco, meno voi ve ne aspettate, invece a lui no. Io perso l'aereo, mi sono dovuto frugare oltre 350 euro. Ecco, mi sta tanto un attimino. Sì, che si sente, KP2. Sì, adesso faccio entrare Antonio Robert. Sì, sì, che lo conosco, l'avevo comprato anch'io quella serie lì da Pintus e Scarpa, in via Cavour qua a Sassari. E poi l'ho preso la seconda serie, uno c'ha il manopolone, l'altro no. Va bene, avanti Crode. Sì, guarda un attimino come tu usci. Questa è la radio di questi. Aspetta un attimo. A tratti, Antò. Sto strappando. A tratti ti ho sentito, Antò. Sì, questa qua è la radio di cui ti stavo parlando, che mi stavi chiedendo di farti sentire. Guarda un po' come sta uscendo. Va bene, benissimo, benissima modulazione. Esce bene. No, mi stavo dicendo Gianni che è un po' bassa di modulazione questa qua. Aspetta un attimino che mi metto anche il rosso subito sopra. 1 e 2 di stazionari, quindi come è bassa però di modulazione o no? Poi dipende da cosa stai usando. Io ad esempio adesso sto usando 140 con un microfono della ZG con l'MB più 7, dipende da cosa ci abbini. Che microfono è quello? L'SM20? No, negativo, questa è la saponetta. Guarda, adesso io ho sistemato anche il livello della compressione, dovrebbe essere... aspetta però che sono tutti i valori sballati. Hola, guarda un po' adesso. Va bene, è forte la modulazione, io la sento buona. Boh, così, già tu mi dici tu che l'avevi già sentita. Io non la sento manco chiara. Neanche chiara addirittura. Sarà sto boh, distorso. Attacca il processore tu. Così ho diminuito il mic gain e ho abbassato un po' il livello della compressione. Abbassa ancora il livello della compressione. Guarda un attimino, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ora è chiara. Ecco, così è perfetta, lasciala così. È chiara ed è amplificata anche. Ora grande, va bene. Sai che sistemo le stazionarie, un attimino, voglio vedere come sono messo. Io stavo attimo, ho detto che l'abbassa. No, ho detto che la voce era normale, la radio. Dove già ci siamo sovramodulati, stavi dicendo? Io stamattina non ci ho detto che era bassa, ti ho detto che non era amplificata. E adesso come risulta, è amplificata o meno? Per me no. Sì, ma la tonalità già c'è. Sì, ma non è l'amplificazione, ma considerando che la saponetta va bene, non ha nessun microfono amplificato per sentire l'amplificazione. Magari se attacchi un MC60, un SM20 o un altro microfono amplificato ti dà i risultati giusti. È possibile, è possibile. E come segnale come sono qua? 950 sento. Su 140, se 950. Ho detto, ma mi pare che hai un MB più 5, ti ho più 4. Vado a fare le connessioni a quello. Qui, io per non inserire il 60 qua, su questo 140, che insomma, di scorta, c'ho l'MB più 7 con la connessione Kenwood, guarda che modulazione. No, ma c'ho qua ne un altro di MC60, posso collegare di quello. C'ho un MC60, un MB più 5 o un Tarnel 751. Devo solamente decidere cosa metterti. Ah, ICOM sposa bene con... i microfoni Kenwood sposano bene con ICOM. Quelli ICOM e con quelli Kenwood sono un po' così e così. Ho già fatto delle prove io. Però se hai l'MB più 5 e ti fai la connessione ICOM, poi mi darà la risposta. È una cagola, questo MB più 7 non va a toccarlo, MW, quello di Chiaramonti. Già col connettore A8, quello di Cirolo va sull'ICOM, io non ho fatto altro che cambiarle le due polarità e farle diventare Kenwood, sempre con la batteria. E a metà il microfono, il mic gain della radio a manetta, processore inserito, senti che modulazione. Ho fatto le prove col 60, non cambia niente. Ah, no, ma intanto io gli avevo fatto quella modifica all'MB più 5, quindi veniva autoalimentato dalla radio. Aspetta un attimo. Quindi veniva autoalimentato dalla radio e non andava 9 volt, andava 8 ed era una bomba, lo utilizzavo al 140, al MB più 5 non si notava la differenza con l'MC60. Infatti vanno molto bene. Quell'ICOM dovrebbe andare ancora meglio perché il microprocessore del 728 è simile a quello del 140, però ha praticamente il controllo automatico sulla LC e quindi spinge un po' di più il Kenwood. Però anche l'ICOM con con questi microfoni così della ZG, visto che c'hanno il potenziometro per poter aumentare la modulazione, sicuramente ti dà dei buoni risultati, per conto mio, è solo da provare. Capri, cazzo, dove era la KB23, sì. Capri, Peppino. Ehi a Peppino, vieni avanti. Poco fa mi ricordo che c'era qualcosa sulla canalizzazione, ma le radio sono molto simili. Questa però va bene di radio, vero doppio Ru? Anche questa qua va bene, a parte che sembra diciamo è bella forte e coso, mi sembra un po' citofonica, ma comunque va bene. Bancarella. Claudio, guarda un attimino questo invece com'è, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ho salutato Gianni, anche questa va bene, mi piace, c'è una bella timbrica. Questo è l'MV5 abbinato all'OT50, guarda come sta andando bene. Invece va bene. Va bene, anche se l'850 è semidigitale, quindi comprime un po' meno rispetto a un PLL, però va bene, va bene. L'altra mi piace di più, il 60 mi piace di più con l'850, però anche questa non è male. E tu? E dimmi. Interrogativo, hai ricevuto quella cosa che ho mandato? Sì, già l'ho visto. Un bododo sembra, quanto sono grasso, madonna. Vai. L'ho mandato stamattina, tu mi hai sulla mano. Fatto bene, fatto bene. Non sai che non c'avevo foto io di stazione? Infatti, quella lì, vabbè, te l'avrei fatto una migliore magari con la macchina, ma visto considerato che anche il telefono non è male. Sono qua e avevo problemi con un capo. Avevi problemi anche tu? Ti a fare dei sicuri capi, so. Fa conferma a cacca la luce invece a casa, sono dovuto scendere in pigiama a attaccare quel cacchio di luce ogni volta, se attacchi qualcosa in più, guai. Mia moglie sta guardando il televisore, io sono all'apparecchio, Manuele e Marco stavano guardando un film, insomma, e si è staccato. Guarda, costa 40 euro quel disturbo, se vuoi evitartelo. Cosa vuol dire? Nel senso che esiste, lo vendono su eBay, un riarmatore di contattore. In breve è una specie di cosa che si mette sopra... Ah, ciao Marco comunque, ciao anche a Gianni che non li ho salutati. È una specie di sistema che si mette, di apparecchietto che si mette sopra il contattore. C'è una cordicella che si collega direttamente alla vetta del magnetotermico. Come viene abbassato, dopo 2 minuti, anzi neanche 2 minuti, dopo 30 secondi lo riarma. Se si ristacca, te lo riarma per 3 volte a distanza di 30 secondi. Alla terza volta non si riarma più, devi scendere tu a riarmarlo. Però dove lo vedo? Su eBay tu scrivi riarmatore contatore Enel su eBay, costa intorno ai 40-45 euro. Adesso guardo, mi hai dato l'idea, non lo conoscevo questo apparecchio. L'hai messo altro? No, lo devo ordinare, me lo devo ordinare anch'io, perché lo stesso ogni tanto si stacca, è una rottura di balle, perché poi è chiuso in una specie di armadio in legno giù nell'atrio del portone. E anche il mio è chiuso a chiave, ogni volta bisogna aprire e fare. Ma sarà di facile montaggio o di quelli con le cose complicate che si mettono all'interno, eccetera, eccetera? No, c'è una specie di biadesivo molto resistente, se non addirittura delle viti, adesso non so esattamente, ed è una specie di cosa, di pezzettino che proprio si adatta al contattore. Dopodiché c'è una cordicella che va a agganciare, l'agganci semplicemente sul coso, sulla levetta. Come questa qua si abbassa, tira la cordicella che mette in moto un circuito e quindi te lo riarma, viene ritirata sulla cordicella. E te lo fa, ti ripeto, se si risgancia te lo ritira su, se si risgancia te lo ritira su, alla fine la terza volta si blocca, perché è possibile anche che magari abbia qualche anomalia al sistema se ti si stacca tre volte in seguito, capito? Ma io sto pensando, l'interruttore è molto forte, come cavolo fa a farsi a tirarlo su con la cordicella? Sembra strano, ma è a batteria, come? A batteria con una demultiplica, guardatelo prima su YouTube, c'è il video su YouTube, si chiama Riarmatore Contattore Enel. Oh, ma non è avete salvavita perché è troppo casa? Sì, ma si stacca da giù, Claudio. Ma non va bene, però deve staccare prima salvavita, se no cosa c'è da fare? A me quando capita mi si stacca salvavita qua dove ho la radio, che ognuno, se non ce la fa questo salvavita, scatta quello vicino alla porta qua, capito, quello delle altre stanze, perché io ho due salvavita, uno sulle prese e uno sull'alimentazione 220, capito? E quindi deve saltare quello prima, vuol dire che non è regolato bene già. No, aspetta, scatta solo quando c'è un corto, per quello che non scatta, se c'è un corto scatta, ma di solito scatta prima il contattore laggiù. No, aspettate un attimino. Allora, quel pannello che c'è a casa è composto da questi pezzi, cioè dal salvavita, che altro non è che un differenziale. Dopodiché si divide nelle due linee, che sono prese e luci. E lì ci sono i magnetotermici, che scattano esclusivamente perché è superato, diciamo, una certa tensione. Mentre invece il salvavita, anche detto differenziale, scatta perché c'è una differenza fra la tensione del positivo e quella del neutro. Però quello non scatta finché non, cioè non è un magnetotermico, quindi se non c'è una differenza di cosa non scatterà mai il salvavita. Mentre invece quando non ci sono ben commisurati i due magnetotermici, allora scatta prima giù che su. A me non mi è mai scattato giù, a me mi scatta sempre questo della stanza, che è collegato alle prese dove sono il radio, e poi qualche volta scatta l'altro vicino alla porta, dove c'è, insomma, dove sono gli altri due. Però il contattore è difficile che salti. Il vero è che quando c'era il contatto di vecchio non saltava mai. E non ci sono per fare a farci scendere giù ogni volta. Ma infatti perché abbiamo questo problema? Perché i quadri elettrici che abbiamo a casa erano stati commisurati per i contattori vecchi che non scattavano mai. Questi qua invece, che sono elettronici e sono sensibili, una volta che superi quella soglia scatta giù, capito? Aspetta che stiamo mettendo in parcheggio Gianni Capri 2, che poi farà girare per Marco Condom. Avanti Gianni. Salvavita, hai messo il dito nella fase della corrente. Ci ha messo la panta. Comunque se vuoi venire. Sì, ma basta schiacciare il pulsante del salvavita, il differenziale, che si vede subito se funziona. Faccio ogni volta che faccio la morte. Anch'io. cos'è lei, Gianni? Questi test bisogna farli sempre, si sa mai. Per i brufoli bisogna fare i test. Ascolta Gianni, ti volevo dire, ma poi l'hai trovata la pantana? O Capri? A miei tempi si chiamava Pantagana. Aspettate un attimino, lo sai perché li hanno tolti Gianni Capri 2, quei contattori? Perché li chiamavano contattori lastra. Io mi ricordo quando studiavo a Cagliari, utilizzavamo il, come si dice, o le lastre, quelle per i raggi, come si chiamano? Le lastre, il foglio della lastra. Oppure la cosa, come si chiama? Il negativo della macchina fotografica. Una volta c'era rimasto anche dentro la fotografia di una persona che abitava con me, per tirarlo via velocemente. Ah, bloccando la rotella con quelle plastiche tipo del colletto della camicia. Ma la cosa migliore era la lastra, il foglio della lastra, che era abbastanza grosso, lo dovevi leggermente limare con la carta abrasiva e usciva perfetto per poterlo inserire fra il vetro e il contattore, che era imbacchirite, poi l'astuccio, diciamo, la copertura. Oggi sto parlando, sembra un analfabeta, sono un pochettino, ho mangiato troppo a paine evidentemente. L'inghittente. Allora si è scorrezza addosso. Ehi, perché c'ho la pelle corta, capito? Perché ho paura che si apra troppo la bocca. Sta attento allora. Oh, Capri! Peccato non si possa fare col contatore dell'acqua. Capri! Cazzo, bere e farido. E ha provato di persona il salvavita. Il contatore dell'acqua lo stacchi e ci metti un tubo. Molto ci vuole. Cosa? Il contatore dell'acqua, dico, se crea problemi basta staccarlo e metterci un tubo. Ma bisogna succhiare prima il tubo. Per fare la prova, per vedere se tira. C'è un cavetto infame e difettoso qua. Non so se è quello che va dall'apparato a lineare o quello che va dal lineare all'accordatore. Se vuoi il 140 o credo prendo il lineare. Ah, perché il 140? Questo è il superstar. Ah, superstar. Beh, vuol dire che esce bene come il 140 allora. No, mi sono ricoglionito, scusi. Io. È tutto un'altra cosa. Quello da macchina, da 50-60 watt pure, se li dà. Perché sento questo qua? Sembra il rumore del PTT, del 6, dell'MC60. Attento, Capri 2. Contatore pari 2. Te l'ho detto, ha messo il dito nella fase della 220. A vedere se salva vita, li salva la vita. Arturo, dammi un controllo del segnale, per favore. È tutto schiacciato. Sei compreso, cosa c'hai? Sta pompando. Quindi si sente 9,40, ma ti stai mangiando la modulazione. Scusa! Mi guarda adesso come va. Ho detto, c'è la pantana del turno, l'hai trovata. Sì, l'hai trovata l'altro giorno, stavi cercando la pantana del coso, il puma. No, le avevo cambiate, cos'è che non ho capito cosa hai messo nuova o già. L'hanno corretto. Capito, ma non sono di plastica, sono d'acciaio quelli del pullman. Sa sono andato e me lo sono comprata nuovo, come ho fatto. Per fortuna rifanno delle fanno di concorrenza, capito? Sono andato in tutta Sassari, non ne avevano. Poi sono sceso da Maviglia, fuori dottore, sono trovata quella di concorrenza che è uguale identica, ma costa invece che 40 euro, costa 15 euro. E vai alla Opel. No, e poi quello io conosco Marco, non c'è più Pippiano, c'è Marco, quello che ci lavorava, c'ha i dipendenti. E boh. Che provo deve fare? Guarda questo come scembere squillando. Capri, quindi lo che voglio stare dicendo, che deve fare la prova a mettercela in culo. Stiamo vedendo cosa volevi fare, Marco. No, prova le due potenze differenti. Vabbè, ma quello Smitter non è molto preciso, Gianni. Questo è preciso, quello è preciso, a tutti e due. Se riesci a vederlo è preciso. Ma lo so quanto è preciso quello Smitter, è piccolino ma veramente micidiale. Io facevo le prove con 4.30 e con quello lì a vedere i segnali che ricevevo. Mi volevo mettere la rete in ingrandimento per vederlo, però è preciso, perché c'è la scala sino a 9.30. In miniatura ma ce l'ha la scala. Vabbè, e guarda un po' così con 4 watt, Gianni. Con 4 watt, poi sì, tantiamo quasi 8. Tappa, guarda adesso, 2-3, portante fissa. Sì, appena la mosso, me lo si crede, ma così lo saltiamo la mosso. Figurati. Allora, a me, prova, attacca, attacca. Allora, è che siamo vicini, guarda. Posizione 1. Posizione 2. Può essere, può essere. Però lì sono 10, sono 10 di me minimo, capito? Perché è troppo vicino, perché qua Marco fa da 9.20 a 9.30. Equivale Marco, o te lo arrivi tu o te lo arriva lui, cioè equivale sì, solo che lui vede con lo stacco di 1, anziché sono 10 di bit, perché qua sei 10 di bit, vai da 20 a 30. Perché non so nemmeno quanto sia preciso l'accuratore ZG, quello grande, la KP1000, sembra un po' generoso, capito? Qua segna, aspetta che te lo dico. Qua dice 60, 65, secondo me non sono più di 40, siamo 50. In città, lo sbatto che fai, potrebbero essere anche 60, 70 watt. Comunque se mi dici da 9.20 a 9.30 può essere 4x4, 16, mi aumenta di Santiago, 16x4, siamo lì in una sessantina di watt, quindi sono due Santiago in più. Sì, infatti 60, 65 watt stai andando per aumentare così, ma Gianni ti ha detto che aumenti di un'attacca, sono 10 dB, uguale si nota perché i decimali sono un po' più spostati, quindi me ne accorgo, 20-30, lui ti dà 1, sono sempre 10 dB, quindi già è giusto. È in miniatura con lo Smith, però va bene, c'è un bel settaccio, dissipatore, non ne ha, vero, non ne ha dissipatore, Capri 2, Capri, sparito, cazzo, appigliamo la Capri 23, ma tanto non è una gascetta. Ascolta, facciamo una cosa, saliamo col furgone, ci ricarichiamo tutti, così non li usa più, si usa quello che deve usare. Sempre già vende il radio, non ne ha quello lì dissipatore, non ne ha, dai tu. Non lo so, e poi scalda il dissipatore a seconda di quanti watt gli stai caricando, capito? Ma te la dai pochi watt e vedrai che non scarica. Fa vedere le ventole per raffreddare come ci li ho io. Le ventole che la ci metto all'anche, non la giocato. Almeno questa è macchina va di linea retta, non è da molti ma va. Quello della RM Italy non c'è verso, è sia in base magnetica sia antenna al centro tetto, rimane agganciata in trasmissione. È una cosa che ha fatto a tutti quelli che l'hanno comprato. Ma siete fissati, io sento sempre, con una radio come quella che c'è Gianni, come quella che c'è tu, l'ho avuta anch'io, prendiamo il magno, no? Sento scalda, sai, e l'ingegnere che ha costruito, l'ingegnere tu che hai costruito con la radio, ha deciso di mettere un dissipatore per dissipare il calore in quella maniera. Chiaro dovrebbe scaldare. Vado a mettere, per esempio, sul 7004, quello che c'ho io, la mano dietro quando ce l'ho tutto il giorno accesa. Non puoi toccare la radio, oppure non è che deve andare così. Però il dissipatore c'è per dissipare il calore in quella maniera, quindi non è che non sta funzionando bene. Quando lo raffreddi tu Gianni, non è che le stai facendo bene, no? Ma non lo vai nulla a me, perché con la temperatura lì, il dissipatore deve arrivare a quella temperatura lì. Ma se scalda troppo poi puoi finare, e gli dà la ragione. È risaputo. Avanti, Marco Condor. Cosa ci dici di bello? Cosa ci dici? Forse avevamo parlato in due con Antonio, credo. Allora, questo lineretto da pochi watt, però la portante la stacca in macchina, sto dicendo, in macchina. L'altro c'è da più watt, è da 100, tondi, però non stacca, rimane importante. È successo a quasi tutti quelli che l'hanno provato in macchina, che sia con base magnetica, che sia con attacco al centrotetto, questo lineare, come attacca non stacca la portante. Capito? Invece a casa va bene. È da 100. Con quanti watt di entrata? Allora, quell'altro lineare c'è da massimo 10 in entrata, tu gliene dai 9, gliene dai anche 5, niente, non stacca. A casa sì. O è un problema di rientri, non lo so a questo punto. Questo no, questo in macchina va bene, questo piccolino ZG. Ma io te l'ho detto, il lineare che devi comprare si chiama CTE 747, problemi non te ne danno. Ehi, l'ho sentito parlare già, costa solo 10 euro in più, ma mi chiedo se vada bene con base magnetica. Dovrei provarlo, io se non provo non compro. Hai sentito parlare, ma chi, lineare? Oh, ne ho sentito parlare del 747, ma alla fine è come il RMI Tarimigia, se lo vedi dentro è quasi uguale. Sì, vabbè, io non ho mai avuto problemi con quello. Poi con altri sì, con ZG distorce, fa, boom, ma non mi sono mai piaciuti quelli della ZG americani. Non servono una minchia. Vabbè, dai, ma questo distorce abbastanza, no? Questo è ZG. Sì, vuol dire che si è trovato l'allineamento. Poi c'è il 797 che era ancora migliore, non lo stanno più facendo. Quello lì dava 200 watt in AM e mi pare 400 in banda laterale. Vedete quello che c'avevo io. Quello che avevo io, qua c'era MOSFET, era bella, non mi ricordo, c'era comunque era simile a questi qua della cosa. 747, forse era quello grosso, il più grosso che facevano, c'era la ventola sopra, c'era 300 watt in AM e 600 in banda laterale, ma ne dava 280, anche 290 in AM, con la 48, era una cosa allucinante, la radio non si spostava di un millimetro. Lo so, perché con il finale a MOSFET non distorco, quella è la ragione. A meno che tu li dai più watt in entrata, allora sì. Li devi dare massimo 10 watt, io col Galaxy mi davo 9 watt e mi dava 100 watt puliti. Non so, io non mi ricordo quante volte le davo con la 48. Poi sì che spengo questo e attacco un pochino il DAC, sto scaldando le valvole, lo mando in trasmissione col pannello di trailer se esce ancora. Non spengo con molto l'antenna. Ho un altro apparecchio che se ti fai posto devi darmi. E se ti fai posto tu? E ti fai posto tu, ho detto. Guarda, la base di quella lì è già pronta per appoggiarci sopra il 3000 dix, perché come grandezza è uguale al 3000 dix. è molto più alto il DAC, però con larghezza e profondità ci siamo, quindi la base è già pronta per appoggiarci, infatti ne ho tolto tutto libero perché c'era l'850 sopra nell'ho versato, e quindi adesso è libero per appoggiarci quella nuova che arriverà, capito? Quindi se mi serve come base, poi lo faccio andare un pochino, è tutto, è un bel giorno spento, spero che con l'antenna. Cappa, fai pure. Senti, questo razzo, Marco, questo è un ibrido. Il DAC lo conosco già. Lo conosci? Ho visto una foto. Bello, bello. Lo conosci così in fotografia. Eccoci qua. Esso Maria, una potenza. Una potenza è, questo va molto bene. C'ha 25 watt. Valvolare, sta di affinare il valvole, anzi non l'ho messo neanche, eccolo qua, adesso nel valvole sono in trasmissione, stavo andando con le, ancora con la valvola di preaccordo, e a me come modulazione com'è, tanto più 3 su per si dire. E che dire, calda, Claudio di calda. È persino più forte dell'altra che stavo usando prima. Addirittura? Quella era più, un po' più toni bassi, ma questa è terrificante, questa è allucinante. Questa è la battaglia. Un bel altare, l'ammasso. E un bel altare. Aspetta, c'erano due, aspetta che lo metto a uno il microfono. Ecco qua, ora, ora. Così è uno, bene va. Sì, adesso va meglio. È una bella radio. Esce bene, esce bene. Perché devi vedere come vi ascolto, una saetta. Attento capi due. Certo che ti sento. Io sto andando col DAC e tanto più tre da tavola. Come mi ascolti tu? Il DAC marchi 10 SSB, quello americano questo è, quello grande. Vedi, ho tagliato più 3 super sideric, però quello cromato, capito? Non so se ce l'hai tu. Il DAC, sì, il DAC. DAC Mark 10 SSB, questo è 240 canali. Mentre il Mark 5 invece è il 40 canali, mi pare, o 23 canali, non so. Comunque questo è 40 per 3 bande. Ok, SSB non ha l'FM, ma va molto bene. Allora Marco, cosa dici? È mostruoso, ma quanti watt dà anche? La modulazione è mostruosa. 25 watt dà, regolabile, da 0 a 25 watt, 50 watt in banda laterale. È forte, forte. Non è di quelle forti, tipo magari 48, è proprio è una cannonata, come dire. Tu già ti sei mai sentito registrato, no? Sì. Anche stasera mi sono sentito. C'è anche il Moni, capito? La mette le cuffie, pigi il pulsantino. Ma la bellezza è che c'è tutto sotto controllo. Allora io sto tenendo sotto controllo. C'è al primo a sinistra lo strumento l'SWR. Ok. Poi quello a fianco praticamente ti segna la tensione alle valvole, quanto è in trasmissione con la nodica della valvola in trasmissione, sono intorno ai 10, 11, 12 mA sulla tensione nodica. In più la lancetta di sotto ti segna anche i watt. E sono intorno ai 20 sul parlato, il terzo è il modulometro che mi dà la percentuale della modulazione al 100%, e l'altro è lo strumento, lo smitter che fa da 0 a 9 più 60. Bello, sì. Bello grande. E chi è che l'aveva scambiato per un lineare? Tu? No, io no, perché lo conoscevo già. Non mi ricordo chi è che l'ha detto in radio, che l'aveva visto in fotografia e aveva scambiato per l'amplificatore. Sì, ma l'avevi detto, qualcuno l'ha visto e ha detto, cos'è un lineare, no? Sì, perché stava guardando su QRZ e l'ha visto. Ho detto, ma sono i lineari che c'è, no, i lineari sono quelli in fondo, no, gli sono arrivati. Non vedi che vero canale, buh. Va bene, e poi vabbè, c'ha tutte le lucette dove ti segna tutte le posizioni, se metti in SWR si accende SWR, se metti in watt si accende in watt, la calibrazione, ti dà tutte le AM, la banda laterale te le segna tutto, l'ascensione del power, la NL, NB, quindi filtro, eccetera, segna lo stesso sempre con la lucetta verde e te lo scrive, AGC te lo scrive, tutto ti scrive, qualsiasi cosa, anche a pedale in culo ti scrive. Ok, allora è perfetto. Sì, sì, un bel apparato, bella modulazione robusta. Ok, capri due avanti. Domenica mattina ti chiamo, mi prendi il caffè e me lo porto via. E non mi ricordo il microfono, c'è una scorta del microfono io. Andrà bene, andrà bene, ottimo affare. Gianni, doppio room, guarda che Caprio ti vuole vedere sì 80. Ehi, va bene, ma io ti ho detto dammi anche il microfono, che non ho io, cosa ne fa lui delle MC 60? Vai già, portalo qui da MB+5 e ti faccio la connessione diretta a Cambridge, dato che MC 60 è. Perché vediamo. Vieni muso. Andava, là ci penso. Avanti Marco. Non sarebbe male, dai. Basta che sia tenuto bene, pesca bene, eccetera, eccetera. Ma disturba l'isterio. Bene, allora digli che tu paghi la tassa e lui si deve schermare lo stereo. Qui non lo fai saltare. Sorbendacci c'è bello, più rotte. Anche io l'ho pagata la tassa della mondezza. Sì, non mi va abitare di tassa, l'altro giorno sono uscito, ho pagato 200 euro così al volo. Se le pagate al volo va bene. L'importante è pagare. Lascia lì già, non farvi dare il bagaglio ai piazzini, mamma mia. L'altro giorno è partito questo mio collega che è arrivata dal coso dell'Equitalia, la lettera, doveva pagare 1500 euro per una multa che aveva preso il figlio con il camion della ditta, il principale non ha pagato la multa e automaticamente l'hanno passata al figlio. Ma lui l'aveva già pagata comunque in ogni caso, aveva la ricevuta, è dovuto salire a Sassari e hanno visto che l'aveva pagata, capito? Però tanto dice, ho dovuto sprecare la benzina per salire, ho dovuto mollare la volo e tutto canto. Che rottura di balle, mamma mia. Ma lo stesso a poco mi ha notificato una contravvenzione che avevo già pagato, comunque non me ne dentro con la ricevuta, ma io mi ricordo perfettamente. Lui si vedrà, ma adesso vediamo cosa fare. E le sette lunghe dopo 3 anni decade. Decade proprio? Anche per amnistia, non viene più. Decade, dopo 3 anni decade. Cattolone, il ballo, così la facciamo decadere. Antonio Crode. Sì, mi avete lasciato in parcheggio, meno male stavo saldando. 5 anni e comunque, non è 3. Adesso è 3. Ma non lo so se nella zona del monte è 3, ma qua nella zona di Via l'Italia è 5 sempre. Aspettate, ma state parlando della concessione CB? No. Mia sorella stiamo parlando. Anche tutte le documentazioni, i bolli, quelle così, dopo 3 anni ci li può buttare via. Prima era 5, adesso è 3. Ah beh. Detto da quelli di Equitalia, a mia moglie. Mia Gianni, mi aiuto. Aiuto già, pronto sei fatti di nari di Rusalmente. Sta pagando 1000. Aio, KP2, un controllo. Allora, bene la parte, dai. Allora, 4 watt. 50 watt. Adesso sei in 8, no, adesso lo vedo bene. E questo non è far culo, e vabbè che l'ho appena acceso. Allora, appena accedo l'apparecchio, quindi era sul 8, come è attaccato, si era dato sul 9, questo che sia giusto, quello flacco, e anche in questo non va bene, non c'è preamplificatore il diritto, penso che vada bene. Sì, e uno è, sempre uno gli hai dato con la Lafayette cambio 23, e uno le dai con quello, sempre 10 ribissono, è lo stesso che gli ho dato io, sempre 10 ribissono, va bene. No, aspetta, 10 dB sono 2 segnali, 2 Santiago. E perché chi te l'ha detto? Tutti, un Santiago 5 dB, chi dice 4, chi dice 5. Cosa si dice? Mani la vine di fesserì. Mani la vine, se, è da quelli qua. Cioè io ti do un segnale in più e ti dico che sono 20 dB. Ma non stai scherzando. Sempre 1-1 va, se un punto S equivale a 10 dB, cosa vuol dire? Claudio, tu prima mi hai detto, passavo da 9,20 alla 9,30, quelli sono 2 Santiago, 9,25 e 9,30, giusto 10 dB, ma un Santiago sono 5 dB, io ho sempre sentito così da tutte le parti, radioamatori e CB. Sentito da 9,20 a 9,30 sono 5, a casa mia sono 10, 20,30 sono 10, quindi sempre 10 dB sono, capito? E lui l'ha riscontrato 1, quindi ti ha dato da 8 a 9, da 8 a 9, e lui l'ha riscontrato con la KV23, adesso te lo sta ridando, uguale, quindi sempre 1, è così è Gianni. Quanto gli hai dato? Da 9 a 9, 10 o da 8 a 9? La prima era 8 con 4 watt, come ha incassato e salito di usare di un Santiago e gli ha dato a 9. No, daglielo, inserisci il preamplificatore d'antenna, col preamplificatore d'antenna, guarda quanto sale col preamplificatore d'antenna, riprova. Allora, capito, vediamo se l'ha messo, l'hai messo? Via. Guarda, 4 watt. Pseudo 50 watt, pseudo. Allora, ho permesso quando si è tirato a parte con 4, poi mi passa a 9,5, sono 9,5 watt. Quindi è giusto, sempre 10 sono, 8,5, 9,5, sempre 10 sono con Marco. Antonio? Presente. Tu che sei fresco di patente, quanto è un punto S, un Santiago? Non sono 5 dB, chi dice 4, chi dice 5? Aspetta un attimo. Sono il professore di patente o meno? Ma leggiti la legge di Ohm, ma cosa dice? Se è un punto S, è un punto S, che altri discorsi sono? Sono 10 e 5. Se da 9 e 5 vai a 9 e 10, sono praticamente la metà di un punto S, quindi sono 0,5, non 5. Claudio, quando noi passiamo da 9 più 5, questo più 5 sono 5 dB. ed è un Santiago da 995, è un punto S in più e sono 5 dB. No, no, sei sbagliente, 2,0,5. Va. Vai a leggerti la legge di Ohm, che cosa ti dice, vai nella pagina di B a vedere cosa ti dice, e poi me lo fai leggere a me a vedere. Questo è un dB, ma non sai quanto è un dB? Ci bel mi sarebbe, Claudio, un dB. Dici bel di che cosa può? E vabbè, lì adesso vai sul tecnico. No, decibel di misura, decibel di misura, non decibel di suono, capito? Decibel di misura, va in 0,5. Bobo, anni cosa ti risulta a te? Già ne risulta se dormito. Tu guarda lo smitter tuo, ce l'ha le mezze misure, qua c'era il DAC, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, sino ad arrivare a 9 più 60, che è praticamente la scala dei mezzi, la segna a 9, e poi va a 1, più 10, più 20, più 30, più 40, più 50, più 60. Ma Claudio, tu in altre occasioni mi hai detto che attaccando un lineare, per esempio da 100 o 80, passi aumenti di 2 Santiago e che erano 10 dB, quindi se 2 Santiago sono 10 dB, un Santiago è 5 dB. Allora, aspetta un attimino. Allora, un punto S vale 6 dB, 6 dB, non 5, 6. Quindi, ho capito, sì. Quanto è che? Claudio sostiene che un Santiago è 10 dB. Io sapevo che un Santiago era pressappoco 5 dB. Marco, ti ho detto 1, lui si equivale a 1, 1 dB. Solo Smitter, siccome è decibel di misura che ti dà lo Smitter, praticamente noi l'1 lo riportiamo a 10, non è che ti posso dare 9 più 1. Se ti dico 9 più 10 a 9 più 20, praticamente ti do 10 dB di differenza, però sempre nell'unità di misura, quindi equivale a 1. Adesso Antonio dice 6, io so sempre 1, da quando ho iniziato a trasmettere nella 27. Aspetta, forse Antonio ha capito. Se tu passi da Santiago 5 a Santiago 7, quanti dB ci sono di differenza da 5 a 7? Io sapevo all'incirca 10 dB. 10 dB? Ma 5 più 2 fa 7, come fa il 16 dB? Allora, sentite un attimino, che qua ho una tabella a vostra disposizione. Allora, il passaggio, allora, un punto S meter, che sarebbe un Santiago, equivale a meno 121 dB. Quindi se tu passi, come stavi dicendo, da 7 a 9, sono esattamente da 7, che è meno 85, sono 12 dB di differenza da 7 a 9. Quindi Marco, Piazzeri, è la stessa cosa che ho detto io, aumentando di 2 Santiago 10 dB, poiché se siamo 12, ma tu stavi dicendo che un Santiago solo era 10 dB. 1, cazzo 10, 10 te lo do io perché fai come sulla scala dello Smitter, però è sempre 1. Vabbè dai, non ci stiamo capendo. Antonio ho già capito. 6 dB per ogni Santiago. Un punto S, un Santiago sono 6 dB adesso. Quindi se tu hai un lineare che ti fa aumentare di 2 Santiago sono 12 dB esattamente, in più. Dipende in quale scala lo guardi però. Antonio, spiega bene questa scala, dai, se no lo facciamo notte. Allora, questa scala è riporta i Santiago paragonate ai microwatt, ai microvolt e ai dB. Allora, ogni salto di Santiago, cioè da 1 a 2, c'è una differenza che equivale a meno 121 a meno 115, quindi stiamo parlando di 6 dB di differenza. Quindi l'aumento di ogni punto S è in dB 6, esattamente equivalente a 6 dB. Quindi la differenza che c'è fra 5 ad esempio il 7, che sono due punti S, sono esattamente 12 dB in più, capito? Ma spiegalo a Claudio, io già l'ho capito. No, io già l'ho capito lo stesso, però se io ti guardo sullo Smith di un 140, cosa ti avrai? 12 dB. Non te li posso dare 12 dB, perché se tu fai da 10 a 20 o da 20 a 30, come faccio a darti 12 dB? Se ne ho 20, te ne posso dare 15, ma non 12. Però aspettate un attimino, ad esempio la stessa differenza che c'è fra 9 e 9,10, ad esempio se tu la stessa differenza che c'è fra 8 e 9, che sarebbero 6 dB, non c'è fra 9 e 9 più 10, perché da 9 a 9 più 10 ci sono 10 dB, come ci sono 10 dB da 9 e 10 a 9 e 20, come ci sono 10 dB da 9 e 20 a 9 e 30. Quindi per quanto riguarda la numerazione, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la differenza l'uno dall'altro è di 6 dB. Quando invece si parla di aumentare, quindi più 10, sono più 10 dB, capito? Hai capito, Marco? Ah, quindi dopo il 9 comincia a cambiare la cosa. Dopo il 9 quel 10, quel più 10, più 20, più 30, più 40 sono dB interi, cioè decine di dB. Ok. Hai capito adesso perché succede così? Perché la scala da 1 a 9 è in decibel di misura sulla percentuale di meno 100 e più 100. Quando tu superi la scala del 9, che vai sulla linea rossa dello Smith, quei decimali vanno a 10, 20, 30, 40, 50, vanno a più 10, non possono andare a più 12 o più 6. Cioè la stessa potenza con cui tu passi da 10, cioè da 9 più 10 a 9 più 20, passeresti da un 6 a un 8, capito? Cioè diventa inversamente proporzionale, nel senso che la stessa potenza che ti serve per passare da 6 a 8 o da 7 a 9, ti serve per passare da 9 a 9 più 10. Capito. Però allora Claudio, vabbè, ha dato il controllo giusto, da 9,20 a 9,30 attaccato. H2 gli risulta solo da 8 a 9, mi pare. Dovrebbe essere da 8 a 9,5 o giù di lì. Esatto, ma evidentemente non è così preciso da potergli dare quel tipo di coso. Comunque vedi che è esatto, nel senso che ti ha detto 10 dB in più, che sono da 9 a 9,10. Beh, no, aspetta, ha ragione Capri, perché sono 10 dB, quindi da 9 a 9,10, che sono 10 e non sono 12, quindi sarebbero stati da 6, o meglio da 7 a, non arriverebbe neanche a 9, perché non sono, perché sarebbe un dodicesimo, capito? Invece dice un decimo, quindi sarebbero 9 meno 2 punti. Sì, ma tu, ma Capri gli ha dato 8,5, 9,5, quindi sono sempre più 10, perché supera 9, quindi 5, sono 5, il mezzo degli 8 fanno 5, e quindi sono sempre 10 di B. No, sarebbero 11, perché da 9 a, cioè da 8 e mezzo a 9, da 8 e mezzo a 9 sarebbero 3, 8 e mezzo a 9 sarebbero 3, perché da 8 a 9 che sono 6, quindi da 8 e mezzo a 9 sono 3, più 5 che sono, risultano 5, sarebbero 8 dB. Esatto, esatto, perché c'è più 3, non c'è più 5, sì. Mentre invece se superi con la scala del 9, in tutti le radio, tutte le radio, una volta che tu arrivi al 9 c'è la scala rossa, quella va decimale a più 10, tutti a più 10. Quindi una volta che tu, se arrivi già a 9 più 10, mi attacchi l'amplificatore, vai a 9 più 20, io ti devo dare 10 dB in più, non ti posso dare né 12 né 1. Vabbè, comunque, grosso modo, allora, lo Smitter del 680, bene o male, sta segnando quello che deve segnare. Invece Lafayette no, l'HB23 no, perché sono passato da 8 a 9, doveva essere un po' di più, un po' 9,5. Vabbè, ma quel tipo di baracchino, però lui vede uno, quindi io calcolando che quello Smitter è uno Smitter un po' così, così, però sembra abbastanza preciso, l'1 lo faccio diventare 10 calcolando il segnale che ti ho fatto io, ma la scala è quella, da segnale 0 a 9 i decimali vanno di dB, superati 9 passano a 10, la scala era quella, io ho sempre segnato così, sempre detto così, e infatti Antonio con quella scala è così. Vabbè, comunque, già ci capiamo, vai. Non siamo così pignoli. Ma doppio rum, addormentato si è. È qua con voi. Perché non hai risposto prima allora? Probabilmente qua sono in bagno, che non ho risposto per quello. Hai capito. Doppio rum, qua con voi. Cazzo, nostra Germania non ha più le bari. Oh, Grode, come va il dato che contano più 3? Dice che è strepitoso, Marco. Una fusilada, adesso ho sotto i ferri un timer lo stesso, adesso gli sto attaccando gli sto cambiando il filo del microfono. Il timer, no, io questo Super Sideri qua ne ho fatto tanti di timer e mi sono tenuto il Super Sideri che è il più 251, quello della linea di Kraft, quello che mi hai dato tu, Capri. Dunque quello è l'ideale, con la linea a valvole qua, alla grande, infatti mi hanno detto già, ha detto ma altre ne hai, sì, ho detto però no, ma mi sembra che ne ho un altro paio, quelli mi ricordo. Un giorno l'ho attaccata, c'è un'altra che la vuole perché non ce l'ha quella linea, ce l'ha vecchia ma quella non ce l'ha. E l'ha fatto un paio di passaggi, ma c'è una radio che è una cosa allucinante con quel tanner, veramente. Poi tutto in acciaio già, è proprio cromato, tutto in acciaio, è un tanner più 2, tipo quello celeste, no? Però questo è tutto in acciaio, con le scritte, nuovo. Ma nuovo veramente, lucido, sembra carteggiato, invece è proprio nato così perché è della linea di Kraft che è tutta cromata lo stesso, capito? Va bene, Marco, a te ti piace una linea valvolare, non le hai mai viste tu? Guarda, io ho visto una linea molto bella che vende quel furfantino di Lucca, vende la linea Drake, bella, bella, niente da dire. Sì, la linea Drake ne ho avuto due io, ho avuto la C e la B, la 4C e la 4B, questa è un'altra cosa, questa è a bande verticali, scala meccanica però a bande verticali, capito? Una scala meccanica verticale, e questa è paragonabile alla linea Collins, non so se tu la conosci. È una cosa allucinante, sono 3 pezzi, c'è il ricevitore, il trasmettitore e l'amplificatore, ma è una cosa favolosa, veramente molto molto bella da vedere. E poi è molto più facile rispetto alla linea Drake, che c'è la linea a scala meccanica, come io c'ho il Sommercam, però c'ho anche la linea del Sommercam, l'FR50B, ricevitore e trasmettitore, che era della Bonanima e Mario Mao, me l'ha fatta avere Gian Maria. E anche quella è la scala meccanica, tutta in acciaio, bella cromata. E poi c'ho l'FR101 digitale, quello digitale, sempre della Sommercam. E quello lì è il ricevitore e il trasmettitore. Ho visto ne ho 3 linee valvolari. Ma sono strepitose, veramente, hanno una ricezione favolosa, domenica mattina l'accendo per farle scaldare, le ricevo sempre con quelle, le tengo in ascolto in 40 metri, ma sono veramente molto molto interessanti, come questo attimo c'è il taglio finale, ricevitore, trasmettitore a valvole, tutto il resto è transistorizzato, ma se tu ti ascolti come stai verrando, da paura, siete tutti una cannonata, veramente molto molto bella come ricezione. Americano. Devo fare l'americano. Comunque, vaffanculo, non mi viene il tempo. La morale è questa, se aumento di circa 2 Santiaghi, questo sta dando almeno una 60 di watt. Allora, liscio sono con 4, 4 per 4 16, 16 per 4 e sì, una sessantina, dai. Una sessantina di watt. Ehi, di watt, vabbè, adesso lo stacco perché tanto non mi serve. Mi... Ecco qua. Questo invece sono ottime pressioni, sta andando a 20, 20 modulati, 18 di 17 di portante e 20 modulati. Ma vabbè, questo è 220, quindi magari è una tensione più stabile rispetto a una radio con l'alimentatore, capito? No, perché ho notato anche in quello di Pomponio, nella KP1000, diciamo che è un po' generoso, perché qua mi segna circa 70, in realtà dovrebbero essere 60. È un po' generoso con i watt la KP1000. Assolutamente no. Io misuravo 140, ecco, di che mi davo l'apparecchio, mi davo a quello. Io ho trovato una differenza con gli altri due rosmetri che ci sono qua. Wattmetri da anche. O sono tirchi quelli, Gianni, o è generoso questo? O è difettoso l'apparecchio? No, l'apparecchio va bene. L'apparecchio no. È che questo segna abbastanza. Almeno quando alzi segna 70, ma 70, potrebbero essere 70 veri mi questi watt, anche se non ci credo proprio per niente. Ma che già li dà. Oh, vabbè, adesso l'ho staccato perché non voglio disturbare nessuno. Vabbè, facciamo finta che li dia, dà, così sono più confortato. Non le dà, a Marco, perché io arrivo sino a 100, mio da sino a 100, però aumentando il fatto dell'apparecchio è rischio, che lampeggia la luce dell'alimentatore. Ma perché l'alimentatore ti dice già che sei al limite? No, ma lampeggia non la luce dell'alimentatore, la luce dello smitter dell'apparecchio. L'alimentatore non lampeggia, ma lampeggia la luce. No, ma quello no. Se hai un alimentatore ben dimensionato, anche sovradimensionato, la luce ti indica solo che c'è più assorbimento, tutto lì. Ah, così. 55 amperi ti basta. Sei a voglia. No, non è un problema il baracchino. La luce, vabbè, si abbassa nella maggior parte dei baracchini. La luce, ma anzi ti fa da indicatore di modulazione, capito? Se stai uscendo te ne accorgi da lì anche. Avanti, Claudio. Ma Socco, sentite quando piggio? Socco. Ehi. Sì, quanto lo fa qua, ragazzi. Mamma mia, lo dico fin va di sotto, fa pom, pom. Gappa. E comunque no, io ho preso quello a 60 ampere già, ho fatto avere Vittorio la Proxel da 60 ampere, cazzo, 155 euro ci vuole, una mazza nelle varie, costano un bel di soldi, però ti consente di fare qualcosa in più rispetto agli altri. Gli altri che avevo sono tutti da 35, massimo 40 ampere, non ho preso quello, ci ho attaccato il 2000 e il 430, adesso ci ho attaccato anche il 140, è vero che lo porta alla grande, tutti e tre portanti calcati non arrivano neanche a 45 ampere, 50 ampere, perciò va bene, almeno sei sicuro, con l'altro sempre già ben diffusibili, con quello della parking, perché c'era 30 ampere e quando sollevavo con bella potenza era 7400 e c'era 150 watt, 170 watt, me lo solleva, infatti me l'ha sistemato Vittorio un paio di volte e poi niente, va bene. Adesso che se le dice a me adesso, ma sono una vittima. Io me ne sto andando, vi saluto tutti e buona continuazione. passava, se restate, se la buonanotte a tutti, dai, io sto chiudendo. Ciao Gianni, buonanotte, ci sentiamo alle prossime. E io adesso vado a cenare, avanti Claudio. Sto cenando. A cenare. No, sono partiti in una categoria diversa dalla nostra. Che sto a cenare alle 10:30 e poi dormi. No, se ceno alle 8:30, 9, poi alle 11:30 devo cenare un'altra volta, capito? Grazie, più due di manteglia. Capito, hai capito. Buonasera, Renato si va l'appetito. Ok Marco, mi pensate che diciamo che c'è la salute, poi tutte le ore dico sono di Dio, ok, riprendi. E gli apri facciamo girare per Antonio. Oh, stai arrivando a 9, Gianni, 9. A quanti watt sei? 40? 20? Poi anche 50, 50 credo. La compagnia è vista, vedo 50, poi modulati si avvicina ai 100. Oh, ma è un po' modificato quel 680. Non lo so. Sì, è tirato. No, qua nominale 40. Se alzi appena di più non dà picchi positivi, capito? Questo. E poi 40 già basta nella M, boh. Se no già ci sono i lineari per il resto. No, dove si apri è tirato, poi c'è un non ci ricordo. C'è una modifica sullo stadio finale comunque e sul microprocessore per far sì che spinga la potenza a lato del positivo. Una bella radio, ti ho detto, lascia perdere, quella me l'avevo fatta per me. Ma tutti, anche quella di Cia Giulio, quella di Cia Giulio puoi mettere a 100 watt di portante, 100 watt di portante, come 430 che ho io. Tu vieni qua, sulla T250, non sullo strumento della radio. Sulla T250 io ti metto il PTT, portante, multa, 100 watt. Vado a fischiare, va a 150 in positivo, in AM. Non contare la banda laterale o l'FM da 100 watt P, l'ho regolata così, ma la 3 era 150 lo stesso, ma in AM 100 watt di portante bianca va a modulare 150, come quella di Giulio e come quella che c'è a Capri, anche quella di Capri, l'ho detto uguale, le avevo fatte così, le avevo messo con Carlo, con il Chiaramonti, mi aveva insegnato lui a farle. Praticamente ci va un transistor piccolino sulla parte del microprocessore per far sì che l'LC spinga tutta la potenza in avanti, non vada in protezione, perché quando a te non ti va in negativo, la radio sta andando in protezione, capito? Non è che non sta funzionando. Ti dice basta, questo è il mio limite, da qua non puoi andare più avanti. Allora devi modificare per far sì che lei spinga ancora di più. Ma così tirando il collo l'apparato non ne soffre a lungo andare? Assolutamente no, perché i finali del a partire dal 140, che è più piccolo, 140, 680, 430 e 440 hanno finali accoppiati da 100 watt, quindi sono 50 e 50 sia il prefinale che il finale, mentre quelli che facevano prima erano da 25 il prefinale e da 50 al finale, adesso sono tutti da 50 e 50, soprattutto quelli della Motorola, capito, che sono quelli originati, quelli che mettevano prima pure la Mitsubishi erano 25 il prefinale e 50 al finale, invece adesso sono 50 e 50, quindi quando tu al prefinale lo fai lavorare già a 40 watt di portante muta e poi il finale lo fai lavorare a 100 watt pieni, non sta soffrendo niente. Ah, ecco perché, è come fosse ridotta la potenza dell'apparato, da come i motorini con le strozzature. Esatto, e da lì infatti avevamo scoperto quando io iniziai a trasmettere nel lontano 1985 col primo 430, cazzo, quando l'ho comprato mi sceso un accidenti, ho detto no, io gli ho rimando indietro, cazzo, ho comprato una radio, c'è scritto 100 watt, invece non avevo detto che in AM era 25 watt, e io gli ho rimando indietro, cosa mi ha fatto il tuo garaggio? Allora, consultando un po' altre persone più esperte, ero riuscito ad avere appunto un'amicizia con Carlo di Chiaramonte, cioè che avete te, che è un grandissimo radioamatore, e mi aveva detto, Vambella, quello che avevo detto, Vambella, che c'è la radio bella, ma che altre robe, la bella batteria c'è la modifica, cazzo del rapporto, ma la tonna va a 150 watt in AM. Esso Maria, va bene, ma quindi in AM, in SSB chi il doppio almeno? Beh, perché poi le fai una centratura, una taratura intermedia dove fai lavorare lo stadio finale, sia in AM, in FM praticamente l'oscillatore rimane fermo, ma sulla M, sulla banda laterale che l'oscillatore riesce a oscillare un po' di più, riesci a fare una sezione intermedia dove hai gli stessi watt che hai in AM, più o meno ce li hai anche in banda laterale, mentre l'FM che rimane stabile, rimane ferma, ti dà quella potenza che tu riesci a dargli. Io ad esempio il 430 l'ho fatto stabile a 80 watt in FM perché frequenza modulata, quindi rimane proprio ferma. In AM che l'oscillatore muove riesce a dare il picco di modulazione più alto, capito? In FM no. Ho capito. Vabbè, è abbastanza versatile qui. Ma adesso la Kenwood è sempre indipendente o si è accorpata ad altre, tipo la ICAL, no? Alla IAISO, no? La Kenwood ha chiuso, la Kenwood non esiste più. Ha comprato tutto la IAISO dove ha iniziato a fare con le stesse radio nuove, capito? Dove prima era il DS 950, adesso è nato l'FT 950, dove prima era il DS 450 è nato l'FT 450, ha continuato a fare radio nuove tenendo conto della categoria dei vecchi Kenwood, capito? Ha fatto il 980, ha fatto il 990, ha fatto un sacco di radio molto molto molto belle, ma di ultima generazione. Se tu vedi quella che ho preso io, ti ho detto, vai a vederla, qualità prezzo sono poco più di 2000 euro, ma è una cosa allucinante, di ultima generazione, proprio con tutto quello che può servirti a livello digitale, proprio non avevo senso la parola, capito? Con il planetatore rispetto già incorporato, quindi se c'è una frequenza occupata, se tu sei, ti faccio un esempio, a 7080 vedi il proprio l'oscillatore del radiatore spettro che oscilla e ti dice che a fianco a te a 10 kHz c'è un altro che sta modulando, capito? Capri. Tutti morti. Non sentivo più correndo, non sentivo niente, tanto era poco silenzioso, sta radio. Pensavo che si era spenta. So qua, Mi ha chiamato mamma, un attimino. Hai capito cosa ti ho detto? Eia. E avevo sentito che aveva chiuso. Quanto è durata la Kenwood? Prima di Kenwood era chiamata Trio, no? Trio Kenwood, poi prima ancora era accorpato a un altro marchio che non ricordo, negli anni 60 forse. Può essere Trio Sofrador. Esatto. Io l'ho avuto il ricetrasmettitore, ad esempio il TS120 e il TS130 prima del 140 erano Trio, erano della Trio, ci sono ancora, qualcuno lo vedi su internet, su eBay, prendesi TS130, ed è della Trio quello, non è che il microfono, il primo MC60 che c'ho io, che ce l'ho ancora, che è uguale, non è marcato Kenwood, è marcato Trio con la stellina, è Trio, capito? E funziona molto bene, molto molto bene. mi pare che l'ho dato a Daniele, no, l'ho dato a Daniele, non mi pare, l'ho dato a Daniele quello della Trio, avevamo fatto cambio, c'era lui quello della Trio Kenwood, l'MC60, che è uguale, è preciso, solo è marcato Kenwood e al fianco c'è scritto Trio, o Trio Kenwood, una cosa del genere, e c'è lo stemma della Trio, capito? Tutte 920, io ho avuto 920, 930, 940 era già Kenwood, ma quelle serie lì erano tutte Trio, tutte, io dall'85 che uso Kenwood sempre, tutti, li ho usati tutti, con la stadia finale a valvole e senza stadia finale a valvole, tutte transistorizzate. Ecco sì, sai da cosa me lo ricordo? Mario Nottani mi aveva dato un dépliant della Kenwood con gli apparati, no? E dietro, nell'ultima pagina, in copertina, c'era la storia della Kenwood, come è nata, gli accorpamenti vari, di fare appunto quello Trio Sofrador, poi diventata Trio Kenwood, eccetera. Sì, sì, sì, sì, erano così, come i microfoni, così le radio, ma io ne ho avuto tantissime, c'ho anche delle foto, belle foto che facevo spesso quando prendevo il radio, non ce l'avevo, e ce ne ho proprio con le vecchie linee del 102, del 120, sono tutte linee da Trio, ma si è comprato tutto la Gage, sta facendo una barca di radio, ma mamma mia, la paura che la paura, però costa meno, è l'FT950 che io ho comprata, quando ho comprato il 7004 l'ho venduta a Fabrizio, l'FT950, capito? Digitale, lo stesso, digitale, gran bella radio, qualità prezzo, insomma, abbastanza moderato, però è una gran bella radio, gran bel ricevitore, gran bel trasmettitore, un bel menu, una bella radio, capito? Vabbè. Beh signore, mezzanotte meno un quarto e io vi saluto, capri. Ci sentiamo, grazie alle due chiacchiere, anche per Antonio, per Gianni che sarà già dormito, per te Marco e per chiunque fosse in agguato con le cuffie, buonanotte, ciao Giulio se mi stai ascoltando, sei assente, tu dici che io non entro, invece tu sei assente, non ti sento più, va bene, tu mi si addormenta con le cuffie, ascoltando a noi. Quindi ti saluto anche a te. Buonanotte a tutti, a domani se coincide, ci sentiremo anche domani, così facciamo andare un po' questa vecchia radio. Marco, per te ascolto il finale e poi chiudo. Buonanotte a todos. Kappa. Ciao Claudio, buonanotte. Buon lavoro per domani e ci sentiamo domani o alle prossime, quando capita. Avanti Antonio per i saluti, poi a Capri 2. Ciao Claudio, buon 144, 73, ci sentiamo domani se coincide, fatela buona, ciao. Almeno cosa stai andando a mangiare? Allora, francamente Sinceramente non lo so, perché abbiamo mangiato tutto a pranzo, quindi mi prendo una bella mozzarella, poi non lo so francamente. Devo vedere cosa sia rimasto dopo la discesa delle locuste. Se ti conviene comunque qualcosa di leggero, tipo un panetto di burro fritto nell'olio tiepido, in modo tale che si impregni bene, chiaramente impanato e fritto, in modo tale che si impregni bene il pane, che ti lasci col sapore bello di olio cagato. E già mangio abbastanza schifezze io. Mangio un po' tutto, non è che sono fiaghino, roba pesante, roba prepata, roba... vabbè, adesso vediamo cosa c'è stanotte. Se non mi ceno in dolce, mi faccio un bel latte appena appena tiepido, senza zucchero, naturale, e qualche croissant, ecco, e ho mangiato. Cagarella per domani mattina assicurata. No, Arturo, e se ti raccontassi l'altro giorno? L'altro ieri mi è venuta questa stitichezza. Allora, in 3 ride al cesso non sono riuscito a fare, ero disperato. Ho usato una supposta glicerina e niente, non sono riuscito. Ne ho usato un'altra sul tardi, sono riuscito, ma guarda, mi faceva tanto male sedere e sembrava che mi avesse inchiappettato un nero. Perché ti dovevi mettere quelle effervescenti che andassero a scoprire il culo. Ci mancherebbe pure. No, vabbè, a parte che la glicerina brucia di suo terribilmente, quindi. E poi ho perso la verginità dietro perché, guarda, veramente ho fatto pietre, ho fatto. È la terza volta che mi succede, ma mai così forte, quindi sono ricorso al Gutax, 10 gocce è la dose per adulti, ma non ho visto alcun effetto francamente. Quello perché non bevi durante il giorno, quanti acqua bevi durante il giorno? No, già bevo tutto, non dico molto, ma bevo molto più, per esempio, di mia madre e di mia zia messa assieme. Mia zia proprio non beve, non capisco di cosa cambi. Forse estrae l'acqua dall'idrogeno e dall'ossigeno presenti nell'aria, deve essere, non so, un litro d'acqua, dai, un litro d'acqua, un litro e mezzo, in estate due e mezzo. E poi la cosa, le mozzarelle, i latticini che creano stitichezza, attenzione per questo motivo, perché poi stitichezza, emorroidi e ti fanno il raiolo dopo. Allora, no, io credevo addirittura che i latticini facessero scorrere latte, mozzarelle, yogurt, quella roba lì. No, tranquillo, le emorroidi ci sono già, ma ho anche la preparazione H pronta. Senta, mi sei venuto di buttare, ohia. Per così poco, io sei sopravvissuto a quel sito infame che mi hai fatto vedere di narcotrafficanti, mamma mia, no, io sono rimasto scioccato da quello. Invece ne ho guardato uno dei video e mi stavo sentendo male, non ne ho più voluti più guardare. Guarda che ce n'è un altro che si chiama il narcotube e ti fa vedere tutta una serie di incidenti di cose, ma sono assurdi davvero. Incidenti moto macchina, dagli incidenti moto macchina ai suicidi a tutta una serie di altre cose belle per augurarti una buona notte. Guarda, rotten.com in confronto era per bambini. Eia, se ti sto dicendo, ma se vedi questa qua fai www.elnarcotube.com e vedi che cos'è. Vabbè, cercherò di guardare a stomaco vuoto se non vuoi. Avevo visto in quel narco quell'altro lì, Mondo Narco, c'era questo titolo, c'era una ragazza inquadrata e c'era un titolo, tipo ragazza interrogata prima dell'uccisione. Non so cosa le abbiano fatto, sicuramente tu te la sei guardato. Io me li sono guardati tutti quelli là. Devi vedere, c'è uno, in breve queste due bande rivali, che avrai capito che sono i cartelli del Golfo, gli Zetas, che sono bande di narcotrafficanti messicani, che cosa fanno? Una volta che si beccano l'uno con l'altro si fanno questi video. video e li mettono, per spaventarsi chiaramente, li mettono su internet, su questo sito, che è assurdo, cioè alla fine ti rendi conto quanto poco vale per loro la vita. A prescindere da questo, anche quando beccano le ragazze delle varie delle cose della controparte, c'è un video dove gli staccano la testa con un coltellino, un chirurgo, sembra questo qua. È quella tranquilla, sì. Ma quella, quando gli ha attaccato la testa, sta ancora chiudendo gli occhi. Ai, mamma mia. Ma è gente, animali sono, ma poi cosa fanno? Che sono tutti cattolici, magari li vedi tutti con la loro crocetta al collo, capito? Sì, è gentaccia, no? Non credevo che fossero a quei livelli, Ma guarda che in America Latina, per una questione di fame, di sopravvivenza, poi riportata non so se alla droga o cosa, perché non è che abbiano grandi, questo non significa che li voglio giustificare, non è che hanno grandi mezzi di sostentamento, però proprio perché lo fanno per fame è micidiale. Io quando sono andato in Brasile la prima cosa che mi avevano raccomandato è di non tenere l'orologio, neanche quello di plastica, perché se ti viene, o avere qualche anello d'oro, perché girano con la cesuia, nel senso che i rapinatori girano con la cesuia, nel momento in cui te ne esce l'anello ti salvi il dito, se no te lo staccano con una cesuiata. Io ho visto qualche video di come aggrediscono i turisti soprattutto, se vanno nelle zone meno trafficate anche, mamma mia, per carità, non vai alle favela, se no. Chissà come ti conciano, tutto ti rubano, i vestiti, siccome ti esportano gli organi, no, cosa ho detto, esportano, vabbè, ti estraggono gli organi lì sul momento. Ma poi siccome la rapina a mano armata è commisurata alla stessa pena che l'omicidio, quindi provvidere o non vivere, la cosa che fanno ti ammazzano, almeno non c'è un testimone che li riconosce, capito? Perché se li beccano che abbiano ucciso una persona o che l'abbiano rapinata a mano armata, gli danno la stessa pena, quindi preferiscono togliersi di mezzo il testimone principale che è la persona rapinata. Ah, così è in Brasile, allucinante. X lo fanno in Italia allora, ciu. Ma anche in Italia, è quello che infatti voglio far capire a determinate persone che stanno esagerando un attimino, che determinate leggi, siccome diciamo che la legge italiana è una delle più complesse, ma per una questione di articoli è più complessa, quindi fa capire che siamo in una civiltà, cioè in una, come si può dire, in un, se non mi sovviene la parola perché sono bello cotto dal sonno, comunque in una società civile, più civilizzata, più le leggi hanno poco da essere interpretate, ma perché vanno a interpretare completamente quelli che sono la casistica. Ora, molte leggi, proprio perché abbiamo un certo innumerevole numero di leggi, non sono state adeguate ai tempi. Questo per farvi capire che per quanto riguarda l'area antistica ci sono delle pene pecuniarie che sono un attimino eccessive, non riportate ai tempi. Ci siamo capiti? Cioè della cagata che ti ho detto, quanto hai capito? No, ti sto seguendo. Ho visto anche, adesso ti faccio un esempio, per quanto riguarda i reati inerenti alle armi, ho visto che hanno decuplicato, mi pare, la pecunia, come si dice? La pecunia era una pena dove devi pagare, ma succede questo che per assurdo, proprio perché sono leggi un attimino obsolete, che non sono state adeguate, succede questo che ti danno più se ti trovano con un apparecchio radioamatoriale trasmettendo, piuttosto che se vai e spacchi la testa a una persona, capito? Lo so, tutte queste cose qua. Io mi ricordo per i reati, non so, tipo porto abusivo d'arma, a parte le pene, lo stesso, pene draconiane sono state definite da quello che tratta di armi. Non me lo ricordo, è un ex magistrato comunque, molto preparato anche. Pene draconiane. draconiana, è un'età tipo, prima era da un minimo fino a, che ne so, un anno, adesso è da un minimo già superiore a 10 anni. Bene pecuniari allo stesso decuplicate. Prima pagavi, che ne so, da 10.000 a 100.000, adesso da che ne so, da 1.000 euro a 10.000 euro, per dire, no? Ma a proposito di pene pecuniarie, di pene di un certo tipo non adeguate ai tempi, il Vaticano da poco si era accorto che non aveva tolto, per quanto riguardava determinati reati, la pena di morte, la cosa assurda, che era una legge che risaleva al 1800, capito? Il Marchese del Grillo, ti ricordi che aveva dato il suo sosia in pasto al Papa che lo stava per decapitare, poi l'ha perdonato convinto di perdonare Del Grillo, invece era quel carbonaro poveraccio. L'avrò visto una ventina di volte quel film e me lo guardo sempre con piacere perché mi fa morire dal ridere. Poi Alberto Sordi, conosco quasi tutti i film. Guarda, quello era un bel film. Mi ricordo che mamma era dall'amica, mi ha telefonato, era una domenica: Marco, guarda che mamma torna più tardi perché stiamo andando a vedere un film al cinema, il Marchese del Grillo. Io la sera stessa, prima che lei mi telefonasse, avevo visto il provino dal Marchese del Grillo in televisione. E ho pensato subito che l'avrei voluto vedere assolutamente. Beh, mi chiama mamma, siamo andati a vedere Marchese, io mi sono ovviamente aggregato e me la sono goduto al cinema con lei. Che poi non so quanti anni avessi, però era già un film allora vietato secondo me ai minori, perché ci sono alcune scene qui che adesso sono ridicole, però qualche nudo c'era, dai. Sì, qualche culo, qualche testa c'era. Fatto sta che siamo entrati tranquillamente, non mi hanno chiesto niente, proprio niente, forse era minore di... No, io ero piccolo, ero meno di 14 anni, che hanno proprio, l'hanno dato al cinema, porca miseria, non mi viene in mente. Credo che sia stato l'80, ma se tu consideri che il tempo delle mele era vietato ai minori di 14 anni... Il tempo delle mele, mamma mia, quella finocchiata di film, io... Vabbè, sì, 80-81 il Marchese del Grillo, l'anno di grazia, mi pare che facevo ancora la quinta elementare, quindi quel film, non c'era, mi hanno fatto entrare, non so nemmeno se ci fossero divieti o no al cinema, mi pare che l'hanno dato all'Ariston stesso, forse. Guarda, il tempo delle mele, non sto scherzando, siccome c'era un punto, c'era un pezzo del film dove c'era uno scherzo che un ragazzino faceva all'amichetta, dove apriva il fondo delle patatine e ci infilava dentro il pisello, in modo perché questa qua era una scroccona, stava sempre a mangiare le patatine degli altri quando andavano al cinema. Allora questo qua avrà detto questo scherzo, gli aveva aperto il fondo delle patatine, gli aveva infilato il pisello dentro, in modo tale che quella lì, bramosa, quando arrivava alla fine del pacchetto, si trovasse il piricolo. Vabbè, meglio il pisello delle patatine. Poi vabbè, censure varie, è strano perché prima si censurava negli anni 50-60, poi c'è stato il boom dei film erotici negli anni 70, vabbè, al cinema censurati ovviamente, però in TV poi alla fine li davano. Poi c'è questa ondata di bigottismo, non lo so. Avevano censurato tutti i cartoni animati, tipo Lady Georgie, altre cose del genere, Dragon Ball addirittura. Prima noi da bambini li abbiamo visti integrali, non c'erano censure perché non penso nemmeno ce ne dovessero essere. Adesso invece già da un po' di anni hanno censurato quelli lì. Tipo perché, che ne so, Pia si inchinava, vedevi le mutandine da dietro, tutto lì, censurato. Vabbè, cosa c'entra? Io mi facevo le pippe guardando la sigla di Lupin, dove c'era a un certo punto Margot che passava con le tette mezzo nude, però ci voleva un po' di fantasia, non era né più né meno come la fantasia che ci voleva quando col Commodore 64 c'era quel gioco, uno dei primi giochi che si chiamava Poker Strip, e tu immaginati che alla fine quando la spogliavi completamente nuda, la patata era giacca da 3 pixel neri, e lì fantasia da farti le pippe per una settimana. No. Per esempio Dragon Ball prima non c'è censurato, poi censurato, o forse siccome è abbastanza contemporaneo, 10 anni fa l'abbiamo censurato. Allora c'è una scena dove quella con i capelli azzurri, come si chiama quella ragazza, Bulma, non so se è presente, e c'era quel vecchietto che ha il coso di tartaruga sulla schiena, no? Un guscio di tartaruga, aveva chiesto a lì di vedere le mutandine, no? Sempre che le avesse, e praticamente lì a un certo punto gliele fa vedere e hanno censurato quel pezzo. Mi pare che lì solleva la gonna e si vede sedere, pare fosse pure senza mutande, vecchio, praticamente gli è uscito gli occhi, gli è uscito il sangue dal naso, capito, come dire, la pressione è alta. E cazzo, ma anche il pezzo avevano iniziato a censurarli per una questione di violenza da quando c'era Goldrick, stiamo parlando degli anni 80, inizio anni 80. Poi Dragon Ball è molto più violento, comunque adesso sono basati tutti sui combattimenti, ma a prescindere. Io mi ricordo il villino un pochettino erotico, c'era coso, come si chiama, Lamu, non so se te lo ricordi. Sì, sì, ho tutta la collezione, però Lamu è ben poco erotico, almeno non vedi niente. L'unica cosa che vedi sono i segni di Lamu nella prima puntata, quando lui spara con la pistola la ventosa e riesce a staccarle il reggiseno. Per il resto non vedi altro nudo. Bravo, ti vedo preparato, ed è la prima puntata, quando appunto lei si palesa come extraterrestre. E allora fanno la sfida, sì sì, me lo ricordo. Me lo ricordo. Beh, no, sai che cosa? Fanno molto di moda i manga giapponesi, i sexy manga. Qua in Italia, meno male, è arrivato molto poco di quella cultura, però c'è tutta una sottocultura che, soprattutto in fumetti cartacei, lì o là, limita anche. Sì, è vero. C'erano certi fumetti porno proprio, dove si vedevano sempre figure femminili, ma troppo giovani, e scene esplicite, ma forse si diceva che i giapponesi avessero una forma di pedofilia latente, così è, perché solo loro hanno fatto quel genere di fumetti. Sì, ma questo qua è perché sono delle persone abbastanza represse, nel senso che sono delle persone che vivono per lavorare e poi alla fine hanno, diciamo, come il periodo liberatorio durante l'anno di lavoro, dove in questa settimana loro si danno alla patagioia andando in queste specie di casini dove c'è di tutto e di più. Uno perché a livello di dotazione fisica non sono un granché, nel senso che sono mini dotati, è risaputo. A prescindere da questo hanno tutto un concetto sul sesso un po' particolare, un po' stravagante, capito? Eh sì, c'è qualcosa che, boh, quella è la mania di quelle divise delle ragazze, delle teenager giapponesi, no? Classica divisa. Sono fissate con quelli, vabbè, io non li capisco. Ascolta, comunque i cartoni animati, l'uomo tigre censurato, ti ricordi quando lui era cattivo nelle prime puntate? Si vedeva anche il sangue degli avversari, lui gli camminava in bocca, gli lo pestava sui denti col calcagno, quelle cose lì. Adesso invece io ho visto delle versioni in TV censurate dove il sangue praticamente risultava bianco, capito? Non vedevi il rosso del sangue. Quella è la barba. Ma il problema è il concetto della violenza, secondo me, poi è ipocrisia quello di cambiare il colore, è una cosa. A prescindere da quello, tu lo sai che hanno risale l'uomo tigre le prime puntate. Adesso mente locale no. 79 può essere proprio la prima visione in Italia. No, negativo. L'uomo tigre è un cartone animato degli anni 60. Infatti se tu guardi è a livello di movimenti, a livello anche di tratto di cartone animato, sembravano quasi delle proiezioni ferme, statiche, che si muovevano in modo un po' particolare, non erano così fluide. Tu dici sì, in Giappone anni 60. che ci siamo dei cose un po' retro, sì, ma però in Italia quando è stato trasmesso la prima volta l'Uomo Tigre? Io credo inizi fine 70, inizio 80, l'anno non lo so. Sì, è stato, guarda, uno dei primi cartoni animati che è arrivato in Italia, manga o comunque di origine giapponese, asiatica, è stato Heidi. Ce lo siamo sorbiti intorno al 1979-80, poi subito dopo l'Uomo Tigre, poi era iniziato, aspetta, i ragazzi, quelli che giocavano a calcio, che si fracassavano di botte, non mi ricordano, i Billy Boys o i Wee Boys, non so cosa. Poi sempre negli anni 80, però a metà degli anni 80 c'erano, è uscito l'Uomo Tigre, Lupin e tutta quella serie di Mia, e sono andate varie a crescere, Remy e quelle puttanate. Allora, fammi pensare, porca miseria. Allora, Heidi ero piccolo io, ero piccolo, primi anni dell'elementare, forse seconda elementare, credo. Io te l'ho detto, 79-80, mentre invece secondo me il cartone animato più riuscito e il meglio secondo me del cartone animato, togliendo Goldrick per quanto riguarda la serie UFO, è stato Conan. Sono pienamente d'accordo, nonostante io abbia preso in edicola la Mu, in videocassetta addirittura, però molte puntate erano incentrate su personaggi della cultura giapponese, no, modi di fare, modi di dire, quindi non era chiaro. Conan è il più bel cartone animato che ho vissuto nella gioventù. Mi è piaciuta la trama, le ambientazioni, i mezzi usati, il solito, vabbè, che si vuole impadronire del mondo, energia solare, bello, bello, bello. Allora, quello io, ne hanno fatto varie versioni, più o meno povere. La più bella versione, la riedizione, diciamo, di Conan, è fatta così. C'è, ovviamente, vabbè, in DVD, c'è il linguaggio originale, quello che abbiamo visto noi nei primi anni 80, poi la seconda lingua praticamente è stato ridoppiato, non so per quale motivo, con voci orribili, perché io abituato alla prima versione l'ho sentito ridoppiato, è una cosa terrificante, poi a qualcuno può piacere di più attuale. Insomma, è un cofanetto super lusso e blu di colore, quello è da comprare, veramente. Bello, bello, 10 più. No, ma guarda che un cartone animato che è stato ridoppiato è stato quello di Goldrick. Tanto è vero, perché? Perché la società che aveva doppiato il cartone animato non si era messa d'accordo con i periti per quanto riguardava i diritti con la casa produttrice del cartone animato giapponese. Morale, non l'avevano mai più pubblicato, finché tant'è vero che lo davano anche in reti secondari tipo Super TV, una cosa del genere. Tu quelli che trovi con la lingua originale sono tratti dalla televisione, mentre invece cosa è successo? La casa giapponese produttrice l'aveva fatto ridoppiare completamente con accordi diversi, allora solo allora l'hanno messo in vendita. Però ti dico la verità, erano riusciti addirittura a trovare quello di Actarus, era lo stesso doppiatore che aveva 20 anni di differenza e un po' si sente dalla voce che non è esattamente di primo pelo l'uomo, perché Actarus dovrebbe avere 19 anni, una cosa del genere. Già allora ne aveva il doppiatore una 30, l'ha ridoppiato quando ne aveva 60, figurati. Era un po' quando urlava Goldrick, era un po' arrugginito. A prescindere da quello, però, hanno tenuto pressappoco tutte le stesse voci, soprattutto quelle caratteristiche tipo quella di Mizar, che era il padre di Venusia, e la stessa Venusia che aveva una voce un po' particolare. Quindi hanno fatto un buon lavoro, benché sempre la prima edizione sia la migliore. Sì, tu non l'hai mai ascoltato Conan? Conan ha ridoppiato. Vieni avanti, se c'è la modulazione disturbata, vieni avanti. Aspetta che... Stavetto... No, c'è qualche problema, eh. Vediamo un po', non riesco a capire dove è il problema. quello. Ah, boh, non lo so. Aspetta qua. Guarda che sembra quasi ti sia attaccato qualche cavo. Controlla di stazionare perché sei sceso di segnale. Si ti copre un po' il QRM, ti porti dietro rumori strani. Attacco il K. Aspetta che riapro tutto quanto il coso, lo spero, c'è bene avanti. Hola. Eccomi col K. Stai fischiando però, eh? Io ho spento l'altro apparato, allora. Sì, me l'ha fatto anche prima, sto provando a toccare i cavetti. Però... Millo. Stai facendo di nuovo? Vediamo un po', ecco qua, attacco diretto all'antenna. Ho un cavetto che si sta interrompendo, non riesco a capire qual è. Un cavo dell'antenna o un cavo dell'alimentazione? No, cavetti che vanno per esempio da baracchino a lineare o da lineare ad accordatore. Vabbè, lineare con il K non c'è però. O lo utilizzi spento? No, no, spento. No, ma è un cavetto, dai, aspetta un attimino, che guardo le stazionarie, faccio in fretta. Ma adesso è a posto, okay. Me ne accorgo io perché sei sceso di modulazione, sei sceso di segnale e la modulazione era sporca. È un bel stazionario però, eh. Ma c'è qualche cavetto a massa? No, ma adesso sto arrivando, sì. Io sei 920 e radio 5. Stazionario senza accordatore, vabbè. Quanto è di stazionario? Beh, 2,5 o 3. Adesso stai andando con 2,5 di stazionari. Passaggi brevi. No, fottidini, dai, stacchiamo. Stacca che bruci tutto. Vabbè che il K va in protezione, non c'è problema. Però vuol dire che c'è qualcosa che non va. Ma va a limite, scusa, stacca, metti in diretta l'antenna. Questo è il baracchino, a tu. Ho capito, stacca però l'amplificatore, metti l'antenna direttamente dentro. Sì, a diretto è. È diretto, ma evidentemente c'è uno spettone in corto. Oh, stazionario, l'antenna stazionaria. Cos'è, sempre quel cesso di Ringo? Sì, ja. Ma quel lavoro gliel'avevi fatto dietro? Aspetta, 5 minuti, Damian. Vediamo un po'. Hola, ecco. Sto scendo. Carpa. Allora, lo spezzone è quello spezzone infame del lineare. È andato male, si sta interrompendo il centrale, lo rifaccio tutto. Vabbè, adesso per finire, Conan dice lode. Avevano fatto un cartone animato chiamato Zambot 3, che se ti ricordi trattava argomenti un po' delicati per i bambini, simil nazismo. Praticamente deportavano le persone, le trasformavano in bombe umane, poi le mandavano in mezzo alla gente per fare strage. Certo, per i bambini non era molto adatto l'argomento, capito? C'era una similitudine proprio con gli ebrei, con il nazismo. Se per quello che non fosse neanche così tanto leggero, non tanto come tematica quanto come violenza, era Conan, te lo ricordi, Conan il guerriero però. Ma Conan il guerriero era il film, tu? Non era Conan, come si chiama quello che faceva i 10 passi con quella specie di mossa sul petto? Ma quello è Kill Bill, quello è Kill Bill. Oh no, il telefilm, il film. No, che c'era quella sigla che iniziava vai, vai, na na na, na na na, che poi che faceva quei cazzo di mosse, si faceva tre passi, esplodeva. Sì, tipo Kill Bill, però si chiamava lui, si chiamava Conan. Io ho visto pezzi di chi, che ne vabbè, l'età è diversa, che il guerriero non mi è piaciuto, non ha poesia, non ha niente, è tutto battaglie, uccisioni, Heidi, vabbè, si era bambini, era un altro pianeta, Conan era più bello, tutti gli altri cartoni animati avevano sempre un po' più di poesia. Quello di che il guerriero proprio non mi piaceva niente. No, ma neanche a me, però ti ripeto, il numero di carte pneumatiche ogni tanto guardavo. Poi l'età diversa, ma chi? La tua dalla mia? No, dare rispetto adesso, una cosa è avere gli occhi di un bambino di 7 anni, 6-7 anni, una cosa è averne 42, non riesce a trovare più la poesia, la bellezza in nessuna cosa, o quasi. Quando c'hai 42 anni? Non c'è più bambini, no? Da bambino era tutto meraviglioso. Lo so. Ma quello è però perché è l'incoscienza della persona che ha una certa età, che non ha problemi, che ha come punto di riferimento i genitori perché ce li ha avuti, e quindi di conseguenza sì, la persona più tranquilla di questo mondo. Tanto è vero che il periodo migliore della vita di chiunque, chiaramente, che abbia passato un'infanzia tranquilla, è proprio il periodo dell'infanzia che va dai 6 anni, quando inizia a capire qualcosa, fino ai 18. Poi a 18 anni ti svegli dal mondo e inizi a svegliarti e capire che il mondo non è così, che tuo padre non è un supereroe e tutta un'altra serie di cose. Poi io il figlio unico, coccolato e foraggiato da ogni parte, dalle numerose vie, insomma, quella era l'età dell'oro, così come c'è stata in Inghilterra, era l'età dell'oro. Lo so, poi inizia la decadenza mentale e fisica, e capisci che realmente come gira il mondo, soprattutto quando hai contatti, i primi contatti col sesso opposto, capisci che prima ti prende la tasca, perdi completamente il romanticismo e vai e diventi schiavo del triangolo. Tanto non che adesso butti soldi, io in realtà il denaro lo disprezzo, perché sai quanto ho speso in 8 mesi, da gennaio febbraio oggi, sai quanto ho speso in apparati? Dimmi. Allora, contandole, spese di spedizione, spese di bonifico, eccetera. Dilla. 1.264 euro. Evidentemente te le potevi permettere, c'è gente che 1.264 euro se li spende in mezza giornata o in cocaina o in altro, quindi ben venga se uno ha un hobby sano. C'è gente che se li spende in sigarette, c'è gente che se li spende in cose molto più inutili. E ti posso dire anche dove li ho spesi, sono apparati, alla Corratore e a parte. Allora, visto quello che ho passato con l'SMD, no? Con l'Albrecht 5008 che è SMD, SMD non ne voglio più vedere. E siccome questi tre apparati sono, credo, gli ultimi con componenti classici rimasti, me li sono voluti accaparrare anche per l'uso in futuro. Uno è il Superstar 3009, con luce azzurra, però la scheda è Ranger Communication, componenti classici, interamente classici. Poi, vabbè, il 140 lo conosciamo bene, più il microfono, che erano 90 euro il microfono. Poi l'apparecchio Omega Force, scheda principale, componenti classici, poi alcune piccole schedine sono in SMD, ma sono veramente piccole. Poi la coppia del Pluto MK1, però versione cromata, no? Versione cromata con frequentimetro, eccetera, sempre scheda con componenti classici e piccole schedine, una schedina mi pare o due con SMD, ecco. Dopodiché quello che si troverà sul mercato tanto sarà tutto in SMD. E siccome io sono prevenuto per quello che mi è capitato, ho preferito accaparrarmi gli ultimi apparati in stile classico, là. Purtroppo di radio amatoriale ormai quasi tutto è SMD, io ho qualcosa, ad esempio io lo, come radioamatoriale HF ho l'OT50, questo 728 della ICOM e dopodiché un ricevitore DR1000 della IAISU. E questa qua è per quanto riguarda l'HF e sono quasi tutti con componentistica, tranne l'OT50 che è componentistica mista, però gli altri sono concettualmente abbastanza anzianotti. Mentre invece per quanto riguarda UHF, per forza di cose ho il 706 MK2G, il 2725, un ICOM 707, no scusami, un Kenwood 707 e sono tutti quanti con microcomponentistica assolutamente. Sì, la roba moderna, sia baracchini che amatoriale, te l'ho detto, rimangono pochissimi apparati, ormai anche in esaurimento con punti classici. Vabbè, il Kenwood, questo avrà componenti classici per forza, perché è del 90. Non so se sia interamente con componenti classici, dentro non l'ho mai visto. Comunque, non penso che abbia SMD. Non lo so. No, la cosa brutta è che in pochi possono aggiustare quella tipologia di apparato e quella tipologia di tecnologia, perché ci vuole una stazione ad aria di saldante, e saldante lo stesso. E dopodiché ci vuole un attimino più di accortezza. Tu a volte mi chiedi come mai me la prendo sempre con una persona, poi un giorno te lo dirò. Lo so infatti, tanto io non capisco perché tanto astio, cioè anche le cose del passato ci sono tutte, chiamare lapistici, fazioni, sono passate, cioè, c'è questa cosa che perdura, non capisco il perché. Io personalmente, a me Pomponio mi ha sempre aiutato quando mi serviva un pezzo, casomai un altro parlante, c'aveva già l'altro parlante del Connex 4000, ho portato lì, cambiato, l'antenna me l'ha piazzata lui, il cavo me l'ha passato lui, mi ha fatto tanti favori, quindi io mi trovo bene con... Poi non è una persona nemmeno esuberante, prepotente, niente, quindi vabbè, un giorno me lo dirai. A parte che non sto parlando di lui, parliamo di una persona X, a cui io per fiducia e per aiutarlo gli ho portato due lineari della ZG153, non so se MP153, se non mi ricordo qual è la sigla, comunque quelli da 50 o 100 watt, adesso non mi ricordo esattamente. Erano dei lineari che come tutti gli ZG non servono a un piffero, morale a uno si era bruciato la bobina, all'altro si era disaldato proprio un componente che sembra un diodo zener. Dopodiché gli ho portato un apparato Texas, adesso non mi ricordo com'era la sigla, e gli ho regalato un radio Tokai, un ricetrasmettitore portatile. Una ventina, una trentina di euro come anticipo dei lavori che mi doveva fare, morale. A un lineare è stata fatta una bobina con una matita esagonale, quindi ti immaginati la gaggata. Non solo, per non metterci un fusibile gli è stato messo un ponte con un pezzettino di rame, in modo tale che si bruciava direttamente l'amplificatore. L'altro non è riuscito a sistemarmelo, me lo sono ripreso così come gliel'avevo lasciato. Vado a ritirare l'apparato, questo è l'apparato, e mi dice non ha funzionato e l'ho buttato via, non riuscivo a ripararlo e l'ho buttato via. Ma ti sembra normale? Cioè tu vai da uno per farti riparare un apparato, gli dai anche un anticipo di soldi, vai a ritirarlo e ti dice che non funzionava e non solo non te lo restituisce neanche, dice che l'ha buttato. Ma secondo te un po' le balle girate ce le potrò avere? Io non lo sapevo questo, non è che... No, non lo sapevo, sì, giustamente uno ha le palle girate. Io naturalmente avevo fatto un discorso, cioè per le cose piccole, stradature, cose del genere, vado da lui, però a lui gli ho detto che quando c'era un problema, allora ti spiego, il 4000 aveva un problema all'uscita in SSB strana, una cosa che non poteva essere fatta da lui, gliel'ho detto, lo porto da Vittorio e Vittorio me l'ha risolta, per dire, no? Cioè per le cose magari più importanti meglio andare da Vittorio, in poche parole? Ma meglio, perché stiamo parlando di un professionista con uno che non lo è. Ma a prescindere, è anche una questione di rapporti personali, laddove in un periodo lo stavo frequentando. Organizziamo un pranzo a casa sua, questo qua non mi piace dirle queste cose, perché, ripeto, però sai, siccome si vede da solamente la reazione, però non si vede da cosa è scaturita, quindi lo dico per questo motivo, sperando anche che lui stia sentendo. Non so, organizziamo un pranzo a casa sua, offro tutto io, il giorno dopo ti sento parlare, e siccome a un certo punto alla fine del pranzo ho avuto un piccolo malore, sono andato via, e tu fai apparire quel giorno dopo raccontando in radio che io sono venuto, ho mangiato e me ne sono andato, però ometti di dire che il pranzo l'ho offerto completamente io, quindi passo anche per sproccone, capito? Vabbè, io di questo non sapevo niente, perché non mi ha detto niente, insomma. E vabbè, allora tu hai i tuoi motivi, però anche stare a creare magari malumori, meglio di no, a questo punto. Cioè, fregatene, sono maracchini alla fine. E poi, vabbè, anch'io me la sei ripresa magari. No, ma proprio per creare una differenza, una discrepanza fra chi si comporta bene, a cui do tutto, io sono fatto così, se ti comporti da amico non hai che da prendere da me, non ce n'è di problema, però cazzo, se mi pugnala alle spalle ti schiaccio come un verme, capito? È quello che mi ha dato fastidio, siccome me la segno, hai finito, siccome di possibilità ne ho dato più di una, non va bene, tutto sbagliato. Vabbè, però poi ogni tanto sentire molla, boh. E vabbè, non lo so, dipende, io ho perdonato cose peggiori, amici, peggiori. Ma tu la prossima volta a questa persona chiedigli cosa può avere contro di me, e dopodiché senti queste, le mie ragioni le sentite, e dopodiché a quest'altra persona tu chiederai, se ti interessa sapere, vuoi, te ne può fregare di me, però chiedigli cosa gli ho fatto io a lui per poter essere al limite, avere dei problemi con me. Ma vabbè, posso chiedere, se tu mi dici di chiederglielo, te lo chiedo, perché non voglio ficcare il naso. Vabbè, anche quello però, tu vedi, è un motivo per non frequentare troppo CB o persone in genere. Non sei notato, io tengo sempre una certa distanza, non sono troppo tutti a cena assieme, sono un po' chiuso, vabbè, di carattere, però se si può prendere un caffè al bar, però poi sai, ciao, ci sentiamo in radio, ecco, proprio per non andare a finire magari in compressioni, bisticci, eccetera, e poi ci sono tensioni in frequenza, capito? Si ripercuotono in frequenza dove ci sono altre persone. Guarda, considerando che non stiamo parlando, non siamo in due che stiamo parlando, quindi mi assumo tutta la responsabilità di quello che sto dicendo, però il problema è che quando vuoi far sì che una cosa diventi un qualcosa di tangibile, di una realtà, sei pronto anche a investire soldi, né più nemmeno come avevo fatto io, nel senso che avevo tirato su questa associazione che è ancora esistente ma che non ha mai poi prodotto niente, proprio perché alla fine poi cerchi di mettere insieme tutta una serie di persone che sembra quasi che ci godano a far sì che le cose vadano male, perché non partorite da loro, mentre invece loro sarebbero state parte integrante di questa cosa, cioè della nascita di questa associazione. L'ho pagato 250 euro per farla registrare, e già c'era qualcuno che avallava ipotesi di dire qua comando io. Cazzo, non hai messo un soldo, ti sto invitando quindi per grazia ricevuta, e dopodiché fai anche lo stravagante. Sì, hai ragione tu, le persone alla fine ti rendi conto che non vale la pena frequentarle così in radio, mai viste, mai conosciute, ti fai una chiacchierata e dopodiché spini tutto, però rimane allora una cosa fine a se stessa, cioè nemmeno come tutte quelle persone che non avendo mai modulato ti chiedono ma cosa fate, cosa dite in radio, e cioè alla fine è un divertimento, un passatempo fine a se stesso, che non avrà mai un'evoluzione, cosa che io gli avrei voluto dare per avere un'utilità e per andare a creare magari anche spese, perché avremmo potuto fare qualche servizio che ci avrebbe potuto fruttare un po' di soldi. Ho capito, sì, dico lui, insomma è esistente l'associazione, però non prende piede. E d'altronde tu hai anche ragione a dire, no, l'associazione l'ho fatta io e un po' comando io, insomma. Cioè si fa, devi essere coordinatore mio, dei movimenti di tutti in poche parole, ecco. No, non volevo dire questo, non voglio dire che è un'associazione dittatoriale, però quantomeno se entri non avere velleità subito di comando, cioè abbia un attimino di pazienza, entra, la cosa deve essere democratica sicuramente, non è che solo perché gli ho messi io i soldi devo comandare io, devo in qualche modo avere un ruolo parte integrante, ma questo è quello che mi aspetto, un minimo di riconoscenza. Però dico, entriamo un attimino lo spirito di voler fare invece di voler comandare. E non so per quale motivo questa cosa non ha mai preso piede, ma qualsiasi iniziativa, perché sembra che ci sia da parte di qualcuno proprio l'idea di voler distruggere, adesso non sto parlando più di quella persona, ma in generale, capito, della serie, siccome l'ha fatto qualcun altro, l'idea l'ha avuta qualcun altro, la devo per forza far andare a merda. E allora infatti, come vedi, rimaniamo così quattro gatti spavoliti che alla fine non, oggi siamo in 10, domani siamo in 5, qualcuno si affaccia di nuovo, sai quante persone non sanno che c'è di ancora si sta modulando i 27, magari c'hanno l'apparato chiuso dentro l'armadio e se solo lo sapessero lo tirerebbero fuori e la frequenza prenderebbe un attimino più piede. È probabile, però vedo che la gente, anzi più che entrarne, ogni tanto si riceve la notizia che qualcuno se ne esce, si vende tutto, non ne voglio più sapere, no, non gli piace più, forse davvero è un'attività che è in procinto di sparire, non lo so, gente nuova, leve nuove non ce ne sono, non gliene frega nessuno il baracchino, loro hanno un tablet, parlano con l'altro mondo per dire, un po' li capisco, ma qua è un'altra storia, capito, un'altra storia, no? Non è paragonabile, è un metodo di comunicazione più antico, ma a me mi simula di più, a me Facebook non ne voglio neanche sentire parlare. E uno dice, ma ti manda i messaggi, mi puoi mandare i messaggi, c'è l'email, mandami un'email e mi mandi i messaggi che vuoi, dice, quello, ma io email non le so mandare, capito, però Facebook lo sanno usare, per carità. Ma guarda, per quanto riguarda, secondo me, dall'invenzione della radio di Tesla, non di Marconi, perché Marconi è un ladro, io sostengo che è nata lì la vera libertà di parola, è nata lì la vera unione fra i popoli, perché sicuramente ristretto le distanze, sicuramente ha ravvicinato i popoli la radio. E a volte mi chiedo come mai un mezzo così nobile sia messo in mano a persone davvero così biette, perché davvero ci sono delle persone a volte in radio che non sanno neanche cosa c'hanno in mano. A prescindere da questo è uno strumento molto, che ti dà molto più libertà di una chat, perché il computer nel momento in cui vogliono staccarti la comunicazione, limitarti, lo possono fare, il baracchino no, soprattutto per quanto riguarda la CB, perché davvero ti possono staccare la luce di casa, ma puoi sempre andare con le batterie della macchina, basta un'antennina e comunque ricopri distanze di un certo tipo, se c'è propagazione vai anche oltre i confini nazionali, quindi non lo so, secondo me il vero mezzo che rende l'uomo libero, soprattutto per quanto riguarda la comunicazione. Quello sì, pensa che negli anni 70 era pieno di macchine anche con antenne, adesso come vedono l'antenna in macchina del baracchino, i giovinastri, capito, guardano l'antenna e ridono, capito? E va bene, cosa li vuoi fare? Gli adulti ti chiedono, ma cosa ve ne fate? Magari ce ne facciamo la stessa cosa che fate voi di Facebook, che è una cionfra continua. Vabbè, siamo destinati a scomparire, dinosauri. Poi è bello anche fare radiatore, diventare radiatore, però per quanto tu mi riguarda i costi sono elevati. Se tu mi dici come spendi 1200 e tanti, a parte che non so nemmeno dove siano usciti questi soldi, perché vabbè, io ho qualcosa da che mi passa mia madre, poi per mia zia di tanto che faccio un lavoretto, quindi è generosa. Per dire, però devi comprare le antenne, piazzare le antenne, il terrazzo è mio, un'antenna magari me la fanno passare, una ringo senza la cosa, o se cominciamo a mettere di poli, roba del genere si buia. Poi le antenne HF costano, cioè non posso mettere, ecco, tu puoi dire, prendi una Malkot BB10V, 7 metri di antenna, niente radiali, è praticamente uno stilo di alluminio con un trasformatore di impedenza dentro, però rende poco, rende quando, come una mantova, come se tu ti attaccassi alla mantova e accordando trasmettessi. Forse la mantova va anche meglio, perché in quelle antenne ci hanno messo delle resistenze, un pasticcio dentro, c'è un toroide poi pieno di resistenze, un mezzo carico fittizio, capito? Gli apparati costano, perché vabbè, questo per la HF può essere sufficiente, anche se un po' datato, te ne freghi, i collegamenti li fai lo stesso. B-banda, vabbè, dipende cosa ci vuoi fare, se solo per l'FM non serve a niente prendere il B-banda con l'FM, ci vorrebbe qualcosa che abbia SSB con direttive, ti permette collegamenti migliori, molto più distanti che l'FM, o comunque più distanti, insomma. In SSB ci fanno collegamenti a lunga distanza, in HF, in VHF voglio dire, per esempio. Capito, un po' è sempre una questione di soldi. Certo, ma io non continuo a non capire, ad esempio, la diatriba che c'è fra i radioamatori che se ne fregano abbastanza, ma più che altro i CB che continuano a fare questa polemica sterile, perché realmente poi in ogni CB c'è la voglia di diventare radioamatore, di essere radioamatore, lo dimostra il fatto che appena ci sono le condizioni per poter varcare i confini cittadini, di fare DX, quasi tutti si lanciano a farlo. La maggior parte dei CB adesso hanno comunque apparati radioamatoriali, quindi evidentemente la questione è che è un po' come la volpe in luma, no? La disprezzi perché non la puoi avere, quando poi alla fine basta davvero poco, basta un minimo di intelligenza, un minimo di culo fermo e chiunque può aspirare o ambire comunque una patente radioamatoriale. Sono due mondi sicuramente diversi, uniti dall'amore per la radio, però realmente una cosa è stare alle scuole medie, una cosa è stare all'università, ecco, fare il radioamatore è tutt'altra cosa, deve avere delle conoscenze, ma perché si è a contatto con delle radio con cui realmente puoi fare danno, hai degli apparati dove se non stai attento vai a invadere determinate frequenze e puoi creare davvero problemi. E soprattutto devi avere un'educazione completamente diversa. E poi ti dico la verità, sto riscontrando più educazione nella banda cittadina, se ti fidi, che come ad esempio in 40 metri. In 40 metri ormai è una vergogna, c'è gente che si sovramodula, che accorda gli apparati mentre uno sta parlando, cioè sono delle cose assurde che tutto fanno presupporre, tranne che siano delle persone intellettualmente superiori magari a una persona che si è comprato il baracchino e lo usa nel peggiore dei modi, però stiamo arrivando a questi livelli qua. Io ho preso la patente esclusivamente perché volevo essere libero di poter avere determinati apparati senza rimanere col culo stretto che il giorno dopo ti venissero a bussare la porta quelli della Escopost, quindi ed è quello la vera motivazione per cui ho preso la patente. Dopodiché sicuramente le soddisfazioni con apparati radioamatoriali sono sicuramente superiori a quelle di un CB, però rispetto le idee di chiunque, anzi, la CB mi è rimasta e mi rimarrà sempre nel cuore, tanto è vero che quando posso la prima cosa dove vado a modulare è in 3x9. Poi a me francamente di studiare già non mi piaceva per la scuola, pensa lo shock di studiare anche per la patente, e poi se non mi dotto, per dire, di apparecchi di un certo livello, di antenne almeno di un certo livello, finisco a fare sul ponte Cisar 24 ore al giorno, perché ci sono anche quella di Anturilini, sono sempre le solite voci, sul Cisar spiamo un bibanda veicolare quando non è portato, eppure si attaccano al ponte Cisar e ci stanno tutta la sera, quello non mi piace, finire così no, bisogna spaziare un pochino, ma... Sì, poi c'è il 7070 che sono, c'è il gruppetto lì, di casinisti. Sai cosa di bello la 27? Che sei più libero di scaffiare, lì devi dare il nominativo, non dico se non ogni passaggio, ogni tanto devi dare il nominativo. Bisogna comportarsi meglio, qua a un certo punto puoi fare un po' di cionfra sulla 27, nessuno ti condanna, nessuno ti dice niente. Sicuramente, l'unico errore secondo me della 27 che continuiamo a fare è quello di trasmettere in AM sfoltando apparati, perché dobbiamo uscire con una certa potenza per raggiungere determinate distanze, laddove invece utilizzando l'FM ottieni, sforzi un decimo l'apparato, o quantomeno della metà, non dico proprio un decimo, però diciamo ti standardizza quella che è la modulazione, e questo a molti non va bene perché devono far vedere quanto sono bulletti, capito? E quello un po' mi fa ridere, perché poi realmente i radioamatori, la M, non sanno neanche cosa sia, perché non esiste, è tutto FM e banda laterale, quindi... Sarebbe bello spaziare con i modi di emissione, l'ho sempre detto anch'io, l'FM, l'SSB, l'unica cercatura è che i baracchini, vari baracchini, non essendo tutti centrati perfettamente, devi un po' centrare uno, un po' centrare l'altro. Se fossero tutti in isofrequenza sarebbe anche più divertente. Io francamente avrei voluto, anziché il 140, non l'avrei dovuto prendere, l'ho preso più che altro per ricevere tutte le bande bene, perché il VR500, lo scanner, siccome ci attacchi un'antenna esterna è un casino sentire radio, capito? L'ho preso così, vabbè, per modulare MT7 è più che altro per ricevere, per quanto può ricevere un filo di 5,5 metri, una mezz'onda mia, si riceve, certo non riceve 9,20, 9,30, riceve 8, 9, insomma, riceve meno. Avrei voluto un R5000 della Kenwood, che è uguale al 4,30 o 4,40, no, per esempio, l'estetica è quella, pare sia introvabile, e poi trovarlo da persona affidabile è ancora più introvabile, quindi io se no me lo sarei messo anche in macchina, l'R5000, capito? L'antenna multibanda ce l'ho dalla, per la macchina, è una Thiele Outback 1899. Sì, un compromesso, c'è in molta bobina, poco stilo, però riceve con lo scanner, almeno quando non ci sono le radio AM di notte, la mattina riceve abbastanza bene. Sì, capo. Io invece non ho di scanner, c'ho questo, adesso non... c'ho il piccolino della ICOM, che è l'ICR6 se non sbaglio, e poi qua c'ho il DVR1000 della IAESU, che fa solamente HF, mentre invece lo scannerino piccolino fa da 100 a 1200. Sì, gli scanner manuali. Purtroppo di scanner buoni HF non ne fanno. Sono tutti, vabbè, ci sono quelli, gli AOR, però questa roba da tavolo portatile non mi ispira molto. Mi sento sempre più di scanner che non proprio di ricevitore HF, AM, FM, SSB. L'AM non so nemmeno se ce l'ha, capito? Purtroppo non si trova, se si trova, si trova a carissimo prezzo, perché se lo tengono caro. Ma che cosa? Un ricevitore, uno scanner HF, stai dicendo? Allora, l'R5000 della Kenwood è identico al 440 di estetica, però riceve solo. Guarda, se tu vai a vederti, aspetta che lo illumino, perché sennò non mi rendo conto neanche qua. Aspetta un attimo, accendo la luce 2 secondi. Diretta lo faccio. Allora, quello che io, se te lo puoi guardare, RG come Sierra. Foxtrot Romeo Golf 100 di Della Iesu. Questo nome mi suona già conosciuto, FRG, sì. Ma è di un po' di tempo fa o è attuale, in vendita attualmente, di nuovo? Credo che sia in vendita attualmente, io l'ho preso di seconda mano, è nuovissimo. Vabbè, un bel ricevitore ci vuole in macchina. Io, vabbè, il VR500 sì, fa da 01-1003, però in HF è caotico, è critico. In H, in V e U va bene. Poi io in macchina uso due tipi di antenne, o quelle a stilo da 50 cm e l'elichetta alla base, oppure ho anche una SG7009, quella rende bene, però ovviamente tutto su base magnetica. Ma su che macchina ce l'hai? Che macchina è? Opel Agira. Come, nera? No, grey steel. Non so cosa significa grigio stile, quindi grigio metallizzato. Sì, silver, quelle che vanno adesso, silver, come lo vuoi chiamare? Silver. Silver sarebbe argento, silver o acciaio, una cosa del genere, colore acciaio. Beh, Marco, dai, che mi sa che abbiamo fatto l'aereo, che ore sono fatte? E parecchio, aspetta. L'una meno un quarto, cacchio, e vabbè dai, comunque siamo divertiti, abbiamo fatto un bel QSO, quasi a livello amatoriale, dai, molto corretti e tutto. Ci sentiamo Antonio, anch'io devo ancora mangiare, non so se mi conviene o se mi conviene andarmene direttamente a letto e mangiare domani. Buonanotte, alle prossime. Presidente, ti ringrazio. 73, buon 144, saluto anche tutte le persone che dovessero essere in ascolto, che sono degli orecchie di porco che non si sono fatti sentire. Stazione Antonio Il Grode, chiude la trasmissione. Ciao Marco, buonanotte, buonanotte a tutti quelli che sono in radioascolto. Ciao ciao. Ciao ciao a tutti e buonanotte.